guardi, che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Sgarbi una volta, durante una diretta televisiva, ha fatto una scorreggia spaventosa, hanno fermato subito la trasmissione, perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più. È una cosa, guarda. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Colpo di stato, ma che colpo se non stato qui non c'è. Allora, siete due facce di merda, ovviamente. L'altra sera ha detto la televisione incriminati per si rafforzerà la polizia, perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è giocata la provincia del centro. Tu che stringi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai. A me fa diventare pazzo questa cosa qui, questa cosa di Grillo che grida al colpo di Stato, grida alla riforma antidemocratica. Per carità, a me questa roba del Senato non mi è mai piaciuta, la gente non frega assolutamente nulla di come verrà riformato il Senato, l'elezione indiretta, per me va abolito, punto e basta. Che lo si faccia tra un anno, tra due anni, attraverso una riforma lunghissima, non mi interessa, l'importante è che venga abolito, chiuso. Giù la Claire, con scritto qui c'è stato il Senato, c'è stata la storia del Senato, una bella targa, Fondazione Senato, e a mano i dipendenti vengono cacciati via. Poi c'è chi cercando. Però pare non si possa fare subito. Allora Renzi ha pensato all'elezione indiretta del Senato, all'elezione indiretta però con qualche potere. Con qualche potere, capite? Cioè un pasticcio. E da migliaia d'anni non cambia. Poi c'è la questione della legge elettorale, su cui Grillo vuole trattare. Prima vuole trattare, poi dice che Renzi è uno sbruffone e poi dice che le porte sono aperte al dialogo. Grillo. Ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Qui è verso una dittatura di stampo legale che la maggior parte di persone magari non avverte. La televisione. La dittatura legale, la dittatura legale, Parenzo, che magari le persone non avvertono. È politicamente schizoide. È uno schizoide, legale. Tecnicamente schizoide. Se stai dicendo, non ho capito, che è un mezzo matto, Grillo. Sto dicendo che è politicamente uno schizofrenico. Certo, ma politicamente. Innanzitutto, tu dai per scontato che tutte le colpe di questo dialogo che si avvia e poi non si avvia, sono di Grillo, ma non del Partito Democratico. Ma no, tutt'altro, anche di Renzi, ovviamente, perché Renzi vorrebbe, più persone votano questa roba più Renzi è contento, questo è chiaro, quindi sarebbe interesse di Renzi avere una maggioranza larghissima, no? Perché lui sarebbe ancora più forte. È chiaro che avrà delle colpe anche lui, ma è uno schizoide, perché su mille cose, la rete un giorno lo bastona, allora lui torna indietro, e l'accordo con quello va fatto e con quello non va fatto, un giorno i migrati vanno bene, l'altro giorno non vanno più bene, è politicamente uno schizzato. Senti questa cosa, la dittatura di un ebetone pericolosissimo, è tornato ebetone. E allora perché vuoi dialogare con lui poi? La visione globale è una dittatura fatta da questo ebettino, che è un ebetone pericolosissimo, quindi molto sottovalutato anche da me, e questo me ne dispiace. Sottovalutato anche da me. Ma sarà un ebete, ma ha preso il 40 una, aspetta, e aspetta, criminalità organizzata di stampo democratico, sempre Grillo. Ma andiamo verso veramente una grande criminalità organizzata di stampo democratico, quindi io esorto veramente le persone, i cittadini, anche i componenti di altri partiti, se hanno ancora un po' di barlume di democrazia dentro, non si può far fuori l'opposizione così, far finta, questa gente falsa e ipocrita. A me fanno impazzire quelli che dicono, per esempio, le soglie, no? Le soglie della legge elettorale. Ma aspetta, ma sta a vedere che vuol fare l'accordo con Forza Italia adesso. No, ma lascia perdere. Cioè, sta a vedere che Grillo vuole allearsi con l'opposizione. Ma cioè se Berlusconi sta da parte... dico con quella parte di dissidenti. ma adesso lascia Italia. Perdere questo argomento, non è importante. Non possiamo adesso. Nel merito. No, non è importante. Sì, adesso alle 18:37 secondo te voglio entrare nel merito? C'è un orario in cui bisogna entrare, non si può entrare. Allora, la cosa fondamentale è questa, che Grillo, Grillo non sa che cosa fare, non sa come trattare Renzi, prima ci tratta, poi non ci tratta, eccetera. Ora opposizione vera, basta goliardia. Signori, noi faremo un'opposizione ancora più dura di prima, ancora molto più dura di prima, quindi avranno a che fare adesso con delle persone adulte, non più dei bambini, non faremo più cose da effervescenti o di stampo magari goliardico, basta, faremo un'opposizione vera, dura. Non cambia la menata. Ma l'opposizione dura l'avete fatta fino alle elezioni europee, poi avete perso. Vabbè. Chiunque vi parla di colpo di Stato, di cose antidemocratiche, dice stronzate. Il punto non è quello, il punto è che il Senato, così come lo concepisce Renzi, secondo me, io lo dico dall'inizio, è una buffonata. È una buffonata inaudita. È meglio abolirlo totalmente. Altrimenti, se gli dai dei poteri, anche un minimo di poteri, che poi sono pure importanti perché sono poteri sulle riforme, eccetera, eccetera, lo devi fare leggere. Lo devi fare leggere per forza. Non è che puoi mettere i consiglieri regionali lì, cioè i sindaci, i consiglieri regionali, o lo fai eleggere oppure lo abolisci. Non è che uno si può inventare una cosa eppure di fretta. E dai, su. Poi quelli che parlano di colpo di Stato, dai. Oggi, l'altro giorno leggevo un'intervista di Cooperlo, no? Che diceva, beh, non si possono lasciare fuori 3-4 milioni di elettori. Ma non è vero, in Francia c'è lo sbarramento al 12%, in Germania c'è lo sbarramento al 5%, ci sono un sacco di partiti che arrivano, che prendono 3 milioni di voti e che non hanno nessun deputato e nessuno si lamenta. Cioè, ma di che parliamo? In Francia c'è lo sbarramento al 12%, al 12%. C'è gente che... Perché questi qua non protestavano quando per anni il Fronte Nazionale è rimasto fuori dal Parlamento? Il Fronte Nazionale in Francia è rimasto fuori dal Parlamento e rimane fuori dal Parlamento perché c'è lo sbarramento al 12%, fatto quasi apposta per il Fronte Nazionale. Però nessuno si è mai indignato. La Francia no, lascia fuori milioni di elettori. Adesso bei tempi quelli, dai, bei tempi, su. Guarda quelli. Ma quale bei tempi? Bei tempi quelli. Ma falla finita. In cui il Fronte era fuori. Bei tempi. Ma quando mai? Tu sei il primo degli antidemocratici, guarda. Quando si guarda il Fronte Nazionale sei il primo degli antidemocratici. Vergognati. Beh, quel Fronte vergognati, Nazionale vergognati, di Le Pen vergognati. Poi fu Mitterrand. Ma falla finita, la legge. Ma falla finita, di che? Ma sei fu Mitterrand, sei il primo degli antidemocratici. Godi quando il Fronte Nazionale rimane fuori. Finisci. All'epoca sì, fu Mitterrand a cambiare la legge. Allora, la Pascale andrà a Napoli per iscriversi all'Arcigay. Biancofiore, la Pascale e Berlusconi sono speculari, dice la Biancofiore. Sentiamo. La frequento abbastanza spesso, è per me una cara amica e dico che i due si sono trovati perché sono assolutamente speculari, solo che Francesca ovviamente è una donna e ha però lo stesso tipo di carattere, molto pervicace, ha molta, secondo me, ha assolutamente molta propensione politica, tant'è che si sono conosciuti in politica, lei la faceva già prima di conoscerlo. Onorevole, che non sai. Vabbè, di quello che è successo in Calabria, l'inchino e cose parleremo più avanti. Ecco, noi Augusto Minzolini, buonasera, ciao Augusto. Ciao a tutti. Allora, ciao, caro. Il rompicoglioni di Berlusconi, così ti hanno soprannominato. Ma chi è che ha detto così? Chi è che ti ha soprannominato in questo modo? Ma lo sai che non lo so, però non mi ci ritrovo affatto, perché poi non è che io rompio. Questa cosa qui l'ho detta fin dall'inizio, penso, diciamo, di essere stato il primo a dire. Ho sentito quello, diciamo, la copertina, la stessa cosa che dicevi tu, che nel senso che il dramma di questa riforma del Senato è che è proprio una buffonata. È una cosa. E oltretutto, il momento in cui questo Senato, fatto in questa maniera, non viene eletto, da essere una buffonata, la rischia di diventare addirittura un organismo nocivo. Cioè? Capito? Cioè, nel senso che tu lo fai intervenire su alcuni argomenti non indifferenti, a cominciare dall'elezione del capo dello Stato, e va a creare una perversione nei meccanismi di rappresentanza. Ti faccio un esempio. Se tu per caso partito di maggioranza relativa, cioè se però prendi il premio con l'Italicum, hai la possibilità di cosa che il PD avrebbe, ma anche altri, di avere 16 senatori, tu puoi tranquillamente votarti il Presidente della Repubblica. Vabbè, che vuoi. Quello è normale, se vinci le elezioni è chiaro che puoi votarti anche il Presidente della Repubblica, così succede non pure adesso. No, aspetta, ti faccio un esempio. Se per caso tu questa cosa qui ad esempio non l'avessi soltanto per la Camera, se prendiamo la legge della Camera, tu potresti avere un premio, ma poi dovresti andare a un confronto, diciamo, con nelle prime votazioni, poi puoi andare a maggioranza e eleggere il Presidente della Repubblica che ti pare, come è successo nel passato. Ma qui il problema è che non c'è neanche quell'elemento. Però io ti voglio chiedere una cosa, scusami un attimo. Devi rassegnarti, Augusto. Scusami un attimo, il fatto che Berlusca vuole portare a casa. Allora, d'accordo, ti devi rassegnare, sei un ottimo samurai. Come mai Berlusca, secondo te, vuole portare a casa a tutti i costi l'accordo? Come mai? Ma non so, guarda, noi rispetto all'atteggiamento che c'è stato nel PD, tieni conto, abbiamo avuto una riflessione molto approfondita quando è stato la settimana scorsa. Tu hai parlato con Berlusconi poi, no? Tu hai parlato personalmente con Berlusconi? Lui ha parlato a lungo durante la... alcuni elementi sono, diciamo, li ha messi anche lui stesso, diciamo, lì all'ordine del giorno, nel senso che ci sono aspetti di questa riforma che non piacciono neanche a lui. Poi chiaramente, come succede in col cuore sta con te, diciamo questa cosa qua. Allora, col cuore sta con me, ma poi qualcun altro la ragione. Guarda, io te la rimetto in quest'altra maniera, che di fatto il berlusconismo in Italia ha due anime. C'è sempre un'anima rivoluzionaria e poi c'è un'anima invece molto pragmatica che preferisce, diciamo, il compromesso a ribasso, disarmato e disarmante. Molto spesso la seconda anima tarpa le ali alla prima. Perché Verdini è il custode, tu hai detto, di questo patto? Cosa c'è sotto? Cioè, cosa ha ottenuto Berlusconi? Ma no, io non me ne scandalizzo, ha un rapporto molto stretto con Renzi. Con Renzi è uno di fatto che privilegia le leggi elettorali rispetto ad altro, dimenticando che molto spesso alla fine tu puoi fare tutte le leggi elettorali di questo mondo, ma se poi non hai il consenso rischi, ma diciamo, se passa tutto così, la migliore e la più favorevole non ti fa vincere. Ma se tutto passa, tu che fai? Esci da Forza Italia? Ma io credo, guarda, che non siamo nella condizione del PD, cioè questo è un partito liberale, cioè non si è mai posto. No, è una domanda. Io questa cosa qui la dico esattamente dal primo giorno, eppure sono riuscito. Questo d'accordo. Pur non facendo parte della commissione affari costituzionali, a me mi hanno tranquillamente messo lì dentro per poter rappresentare questa parte, diciamo, di dissenso che c'è nel partito. È una cosa molto diversa rispetto agli altri. Ho capito, ma se passa tutto, se passa, siamo un'altra cosa noi. Se passa, non c'è dubbio, te lo auguro, guarda. Se passa tutto, Augusto Minzolini che fa? Resta con Forza Italia o no? Attorno al TG1. Ma io ti pare, cioè, nel senso, se io dovessi abbandonare il gruppo di Forza Italia, allora mi dimetto da senatore. Io su queste cose qui non... Però resti dentro il partito, anche se passa tutto come vuole Verdini. Ma io ti dico, nel senso, nessuno può chiedermi di votare una cosa specialmente che riguarda la Costituzione. Questo ti fa onore, bene. Facciano loro, cioè io non è che me ma ne voterai insieme a quelli del PD? Voterai insieme a quelli del PD per rimandare le votazioni? Ma penso di sì, mi sembra che è abbastanza logico. Scusami, se il martedì finisce l'esame in commissione, il giorno dopo inizia subito la discussione generale in aula, senza avere la possibilità di preparare degli emendamenti o di capire, diciamo, con qual è il testo che esce dalla commissione. Ma qui siamo all'assurdo. Adesso guardiamoci negli occhi, ne parlo pure con Parenzo, visto che ha fatto ottime. Ma guarda che Parenzo in questo caso è d'accordo con te, assolutamente. Meno male. Ma ti pare una cosa seria che noi stiamo facendo le riforme costituzionali prima con una serie di tabelle, prima tabella, bisogna farla ma intro, certo, ma hai ragione, perché ci sono le elezioni europee, adesso comincia il semestre europeo, che cosa c'entri? La piccolo dettaglio, Augusto, amico mio, tutto va benissimo e sono anche drammaticamente d'accordo con te, l'unico dettaglio è tuo, perché il problema qualcuno è dice che vuoi tenere la cadrega del Senato, ma no, ma Berlusconi ha già siglato un patto con il signor Renzi e perché vuole mettere la sua firma sotto questa riforma, quindi sei fuori tempo, è una battaglia persa, credo. Ad oggi metterà la firma Berlusconi e io non metterò la mia. Un anno fa, ti faccio un esempio, noi eravamo in maggioranza sia al governo che avevamo i nostri ministri, c'era un ministro di Forza Italia che faceva il ministro delle riforme, arrivò, fece una proposta di riforma, io mi alzai, visto che era una proposta di riforma che non affrontava la questione giustizia, poi avete visto quello che è successo, mi sono alzato, ho parlato contro, ho parlato in dissenso con quel partito e ho votato contro. Allora, con noi Augusto Minzolini, senatore di Forza Italia, dissidente rispetto al patto Berlusconi-Renzi. Non si capisce poi se Berlusconi, ma adesso diciamo la verità, Berlusconi sta più con te o più con Renzi? Cioè, dille esplicitamente questa cosa, vorrebbe rompere tutto, ma c'è qualcuno che lo tiene là e che gli dice: tu devi fare la parte dello statista, quello che firma l'accordo con Renzi? Oppure è lui che ha paura che una volta fatto fuori arrivano i grillini, Renzi gli fa le leggi contro? Che cos'è la paura di Berlusconi? Qual è? Ma non lo so, sai, sono tutte valutazioni. Io ragiono sulle questioni costituzionali. Pure Pier Silvio, lasciamo bene, pure Pier Silvio dice che sta con Renzi con le riforme. Beh, sì. Ho capito, io ognuno è un'opinione legittima, uno fa quello che vuole, io la penso in maniera diversa. Ma la pensano tutti in famiglia, sì, la pensano tutti così? Ma non lo so, mi dicevano che Marina è un po' più, diciamo, da questo punto di vista non la pensa proprio in questo modo, però. Cioè battagliare anche lei non vuole, anche lei non vuole, che gli frega quella del Senato. Teniamo distinti gli interessi dell'azienda da quelli politici. Ma quale distinti? Sono tutti legati. Ma e allora se vuoi essere così cinico, con Falonieri, come la pensa? Allora, scusa, spingerà Berlusconi a fare l'accordo con Renzi, immagino. Certo, no? Certo. Lo chiedo a Minzolini, mica sei intervistato. Renzo, di media, che ne so, diciamo queste parole, delle risposte sicure. Sì, ma siccome lavora per Matrix, allora sul Mediaset è un po' più prudente. Perché devi dire puttanate? Allora, non sa più Parenzo che io, guarda. Ma guarda, ma mi pare. Ma scusa, ma per leggere, sappiamo leggere tutti, Augusto e tu da più tempo. Vabbè, di me, perché allora siete più vecchi. L'intervista a Pier Silvio l'avete vista. Ma è quello che mi fa incavolare. E quello che dice Berlusconi mi pare chiaro. Tu fino a 5 anni fa scendevi in piazza e dicevi: la Costituzione non si tocca. Ma io non sono mai sceso in piazza. Nel film degli Intoccabili. Ma come fai a parlare? Hanno vinto quelli, poi gli Intoccabili hanno vinto alla fine del film, ricordati. Sì, vabbè, alla fine al Capone allora finisce in carcere. Allora è la mia parte, non è la tua, perché tu adesso la vuoi toccare in una maniera ma assurda. Io non tocco niente, allora, guarda, chi è che spinge Silvio all'accordo con Renzi? Cosa c'è dietro? Dai Augusto, tu lo sai cosa c'è dietro? No, che guarda, gli ha promesso? Dire, cioè lì, diciamo, quelli che sono più, mi sembra, convinti della necessità di fare un'operazione di questo tipo sono Verdini e anche il capogruppo del Senato Romani. Però se tu mi dici le discussioni sulla giustizia, c'è una cosa, ha ottenuto qualcosa Berlusconi o no? Ma io, guarda, non credo che abbia ottenuto qualcosa, se massimo potrebbe aver ottenuto delle promesse, ma io da questo punto di vista, sai, le promesse contano, sono sempre promesse firmate, diciamo, sull'acqua, nel senso sono cose che tutto da... Che alla fine Renzi ha fregato tutti, come hai detto tu a Berlusconi. Renzi? Beh, parlare con Rigoletta, a me non mi ha fregato e difficilmente... No, ha fregato tutti, in questo modo Berlusconi rimane fregato, dici tu. Ma io dico che in politica molto spesso, diciamo, le cose debbano essere fatte in termini chiari e che i patti, tenendo conto questo come è finita, diciamo, un epilogo, diciamo, di tutte queste vicende di questi anni, sono sempre scritti sull'acqua, perché io non so, da quando sto qui ho visto, diciamo, una serie di patti che sono finiti come sono finiti. Ma perché Berlusconi rimarrà fregato? Perché rimarrà fregato? Siamo arrivati all'assurdo, addirittura, che la legge che poi ha portato all'espulsione dalla politica, dai palazzi della politica di Berlusconi, l'ha votata Forza Italia ed era anche quello un patto con un altro presidente del Consiglio che si chiamava Monti. Sì. Se uno continua così, cioè fa ridere più che altro, allora non è, pensi politica, che si possa ripetere la cosa dopo quella legge là che ha buttato fuori Berlusconi dal Senato? Io parto da un presupposto che, diciamo, che la riforma della giustizia è una questione che riguarda tutti gli italiani, va fatta di fronte a tutti. Ma tanto non hai, ho capito, ma tanto non la farà Renzi come la vuole Berlusconi, su, dai, ma la penso anch'io, non la farà mai, basta leggere quello che dice Orlando, non faranno mai una riforma contro i magistrati, dai, ma è talmente chiaro che non capisco. Ma non è che deve essere contro, dovrebbe rendere, diciamo, questa giustizia. Vabbè, ma adesso per dire, ma ne sono d'accordo con te, anch'io ho dei dubbi che questa cosa, ma non la faranno mai, dunque non ha ottenuto questo, magari gliel'ha fatta immaginare Renzi. Ma in che modo sta fregando Berlusconi? Secondo te lo fregherà alla fine? Cioè, se passa tutto questo è fregato, perché può andare. Guarda, io parto da un presupposto, nel senso che se tu devi fare questa prospettiva di governo lunga, con tante riforme, allora non dovresti, diciamo, finalizzare tutto alla riforma della, Costituzione, non dovresti finalizzare tutto a una nuova legge elettorale. Che cosa significa? Che tu sai benissimo che le tante promesse che hai fatto su temi che riguardano più da vicino gli italiani, riforma del fisco, riforma arriveranno del lavoro, poi a un punto in cui probabilmente, anche perché avrai una congiuntura economica non favorevole, cioè ti ritroverai che non potrai mantenerle. A questo punto tu hai bisogno di una via d'uscita, e una via d'uscita qual è? È quella di andare al voto, e questo capiterà la prossima primavera. Però per la prossima primavera, se vuoi andare al voto con una nuova legge elettorale, hai bisogno che ci sia sia la riforma del Senato sia dunque la fretta di Renzi, secondo te, questa non è una fretta che conviene a Berlusconi? Non lo immagino, ne sono sicuro che è diverso, e non è una fretta che conviene a Berlusconi. Vabbè, senti Ferrara, che riguarda che conviene, non conviene, diciamo, a questo paese, che cosa significa? Quello è un altro discorso. Ferrara dice che tu sei stato da retroscenista portavoce ufficioso di D'Alema. E adesso sei tra i rompicoglioni di Berlusconi. Allora, posso dirti una cosa, Ferrara, c'è un problema solo. Io gli voglio non bene, di più, però? Ma veramente di più. Però c'è una questione. Lui ha bisogno sempre di un principe. Allora, ha fatto il rapper per Monti, teneteci da conto Monti, adesso farà teneteci da conto Renzi. Ma già l'ha fatto, Renzi. Io ragiono in maniera diversa, io normalmente mi trovo sempre dalla parte di quello che. Sei andato con Berlusconi? No, D'Alema non me ne fotte nulla, rifacendo i giornalisti. Ognuno dice la sua, cioè nel senso. Non è che puoi rimproverare a Ferrara di avere fatto il principe dei potenti. Ma io sono andato là, ho fatto, diciamo, anche facendo il direttore del TG1, cioè nel senso, chi ha tirato in ballo e ha continuato a tenerla in piedi la vicenda della trattativa è stata l'hai fatta da berlusconiano. Ma comunque lasciamo perdere. Senti, Augusto, ma la vicenda Floris come la vedi? Perché andò via dalla Rai secondo te? Ma probabilmente, non lo so, io credo che ci sia lì l'elemento economico che sia abbastanza importante, poi ci saranno anche delle questioni di linea editoriale, ma io non lo so, questo è un discorso che può sapere solo Floris, non so se è stato delle indicazioni, cioè questo rapporto difficile con Renzi, se gli sono state date indicazioni di un certo tipo, cosa vuol dire? Mica pensi che ci sarà stato, che ne so, una specie di editto di Renzi, no? No, ma probabilmente, scusami, quando avvengono queste cose, da una parte c'è stato un dissenso, se io poi devo motivare il fatto che voglio cambiare azienda perché o non mi piace il tipo di posizione dove mi metto nel palinsesto o quello che io chiedo, trovo quella che può essere anche una motivazione adatta per dare, diciamo, una nobiltà a un divorzio. Però tu dici alla fine è questione di Danè, questione di soldi. L'elemento c'è, scusami, perché sapete benissimo qual è la situazione di Rai, e quindi quella lì è stata risolta in maniera diversa. Beh, non è che gli davano due bruscolini, gli davano 1.800.000 in 3 anni, e dall'altra parte gli danno il doppio. Quindi vedi, l'hai detto da solo. Ciao, grazie. Ciao. Nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Allora, Don Rustico è il parroco di questo paese. Bel nome rassicurante. Di questo paese, provincia di Reggio Calabria, dove hanno fatto l'inchino davanti alla casa del boss Don Rustico. Il quale dice: nessun inchino, le case sono piene di arrestati. Senti. È stato sempre presente il maresciallo, diciamo, a questa processione, e ha anche assistito a questa elevazione, che non vuole essere nessun inchino a nessuno e nessuna reverenza a nessuno. Può avere un'interpretazione, visto che in questa casa abita questa famiglia che loro dicono, ma applicando questo criterio le nostre case sono piene di persone che arrestate, che hanno problemi giuridici, purtroppo viviamo in un ambiente in cui non è facile fare una distinzione netta, c'è un'interessazione. Cioè, secondo questo signore Don Rustico, praticamente l'inchino non c'è stato, perché siccome le case sono piene di arrestati lì in questo paese, in Calabria, allora non si può interpretare come un inchino, però no, anche cos'era? No, dai, su. No, poi non si sa, cioè o sa dove sono oppure lo sa perché dice che le case sono piene di arrestati, scusami. Poi ha detto, come sai, di prendere a schiaffi il giornalista del Fatto Quotidiano. Ma è proprio un uomo di pace. Sentiamo la gente fuori dalla chiesa cosa diceva contro il Fatto Quotidiano, perché uno è uno di quelli che ha scritto degli articoli molto pesanti su queste cose qui, no? Non è corretto, ha ragione. Stiamo celebrando, siamo nella casa del Signore, non dobbiamo fare pagliacciate. che si allontani, chiamiamo i carabinieri, chiamiamo i carabinieri. C'è la messa, dopo la messa puoi fare quello che vuoi, adesso no, niente, tu non devi né filmare e fare foto, va bene? Allora, per quello che si è potuto sentire, cioè nulla, erano gente che è andata a messa e che non gradiva la presenza di un giornalista dentro la chiesa, capito? Cioè non gradiva la presenza, cioè il problema è questo, che c'è uno che va lì a sentire quello che succede e se la prendono con questo qua, perché bisogna rispettare la processione, le cose, ma vaffanculo, va. Cioè poi le processioni sono una cosa barbarica, cioè le processioni, sì, lo voglio dire, le processioni, tant'è che qualcuno vuole proibirle, vuole... No, come no? No, cioè, momento. Il capo dei vescovi della Calabria le vuole proibire e fermare le processioni. Ma non perché la processione posso dirti sia una cosa, barbara, è una cosa barbara la processione. Ma invece è una grande tradizione è popolare. È una cosa barbara, ma barbara, medievale, basta con le processioni. Una cosa barbara e medievale. Come si fa a dire basta con le processioni? Sì, una cosa barbara. Come dire basta medievale. Usare il coltello, perché alle volte le persone uccidono col coltello. Sì, ho capito, ma ti serve per mangiare le processioni. Ma che, ma pensiamo che le processioni. Adesso io poi non sono un cattolico, le processioni non dovrei difendere, ma appartengono alla tradizione popolare, ma scusa, quale da tradizione sempre. Popolare, dai, su. Non è che si aboliscono le processioni perché ci sono i mafiosi, gli andranghetisti e i camorristi. Non, è una follia. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Salta l'incontro tra i democratici e i 5 Stelle, Renzi poche chiacchiere, chiediamo un documento scritto, dai grillini poca chiarezza. Grillo, confronto democratico impossibile, dittatura di sbruffoni, poi aggiunge le porte del dialogo restano aperte. Napolitano, momento difficile, ma l'Unione supererà anche questa crisi, sia il cambiamento, guai a mettere in discussione unità e integrazione. La conferenza episcopale calabrese vuole fermare le processioni dopo l'omaggio al capoclan, la procura antimafia apre un'inchiesta, al TG3 il magistrato Gratteri. Mea culpa del Papa, chiedo perdono per abusi e suicidi, sono sulla coscienza della Chiesa che ha peccato anche per omissione. 9 morti nella striscia di Gaza, Hamas promette vendetta, confessano 3 dei ragazzi israeliani arrestati per l'uccisione di un palestinese. Domani prima semifinale mondiale, la Germania critica l'arbitro prima di cominciare, il Brasile fa la vittima, l'Argentina invoca Maradona, l'Olanda prepara la gabbia per Messi. Aboliamo il Senato. Non ci importa se il tuo sangue è rosso blu, dolce amaro nota tu. Il Senato andava abolito, è inutile tenere in piedi un fantaccino con 100 persone elette fra i consiglieri, elette, scelte fra i consiglieri regionali, insomma un pasticcio incomprensibile, aboliamolo. Perché noi siamo zanzare, facciamo quel che ci pare. Oh, Feltri non vuole più parlare della vicenda Boffo, eh? Dice basta, parla di Boffo. Beh, mi esploso di nervi, molto, Vi offro lo champagne. Io sinceramente non ne posso lei più. Detto... Io quando sento nominare Boffo, oh, non lo so, mi esplodono anche i nervi, non ce la faccio più, basta con sto Boffo, insomma io ho fatto di tutto, gli ho chiesto scusa, la notizia era parzialmente vera e parzialmente non vera, mi sono stati forniti dei documenti che purtroppo non erano tutti, diciamo così, in regola, per usare un termine semplice. Però basta, io non ce la faccio più. Direttore Feltri, mi lasciate in pace, io vi sono grato, vi mando dello champagne, non lo so, ditemi voi. Sono piccolissimo, idiota e fastidioso. Oh, devo dirti una cosa, sono andato ieri ad Alessandria a mangiare una meravigliosa pizza in un posto. Ad Alessandria, sì. In un posto gestito da lesbiche. da lesbica. Due. Ma come mai ad Alessandria? Ma sono cazzi miei perché sono andato ad Alessandria. Ma come mai racconti ogni giorno quel che fai? No, appunto, sono andato in un posto, in una pizzeria molto buona, in una piazza famosa, tra l'altro Vittorio Sgarbi, se è qui all'ascolto della Zanzara, dovrebbe conoscerla, gestita da due meravigliose lesbiche, ed era pieno di froci. Beh, una cosa, ma non è una cosa stupendo, così, ma è un posto fantastico. Ma non è una cosa così curiosa, cioè sì, normale. Tutti i camerieri omosessuali, bellissimo. Vabbè, sì. Posto gestito da due lesbiche e con tra l'altro pizzaiola lesbica. Ma ho mangiato. Ma perché devi qualificare una pizzaiola, no, brava, fine. Ma era un posto chiaramente identificato come gestito da due lesbiche. Tra l'altro mi hanno detto che ad Alessandria lo chiamano dalle due lesbiche, capito? Dicono così, andiamo dalle due lesbiche. Ma è meraviglioso, un posto stupendo. Perdite, siamo morte, siamo stecchite, neanche con... Sempre, sempre, sempre, sempre. Quando tu stai per dormire. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Ma qualcuno mi ha detto che hanno fatto le suonerie del telefono con tutto degradato. Addirittura. Con tutto degradato, sì. Ormai è tutto degradato. Non hanno fatto, anch'io voglio però la suoneria con è tutto degradato. Col professore che dice tutto degradato. Ormai è tutto degradato. Datevi la suoneria, regalatevi questa suoneria, ma si può fare anche da soli, no? Si può prendere la suoneria, sì, e mangiarsi, certo, la suoneria, io non certo so un cazzo di queste cose. Allora, io voglio capire un'altra storia, no? Perché New York è il paradiso dei sex toys? Ho letto un'inchiesta molto bella, credo, sull'Espresso, per cui i newyorkesi, e le newyorkesi in particolare, sono fissate con gli oggetti erotici. Cioè, per una newyorkese, non avere un vibratore nel cassetto del proprio comodino, addirittura in borsetta, è una cosa che non è, cioè, è strana, capito? Cioè, le ragazze moderne, diciamo la verità, una ragazza non è una vera e propria femmina, donna, se non c'ha un vibratore dentro la borsetta. Secondo me sei impazzito completamente. Sì, ma è così. Se non ha un... è così. Allora, se tu non sei fornito di un vibratore, cioè io dico alle donne, no, non siete vere donne, se non avete o nel cassetto, o in borsetta, o un vibratore. Questo io sono arrivato dopo tanti anni a questa conclusione. Se non c'è questa dotazione, o nella borsetta, o a casa, in un cassetto del comodino, non c'è la femminilità, non c'è l'adrenalina, non c'è. Beh, così, ormai sono arrivato a questa conclusione. Se uno ce l'ha, bene, se non ce l'ha, vabbè. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Beh, insomma. Beh, non si riferiva a questo il signore. Siamo al top, siamo al top, ragazzi. Le zanzare. Non ci posso credere, l'avvocato Carlo Taormina ha preso in carico la difesa, cioè che in realtà non è la difesa, ma le iniziative giudiziarie di Alessandro Maiorano. Alessandro Maiorano magari non è noto al grande pubblico, ma è uno dei primi nemici di Renzi. L'abbiamo ospitato anche noi qui a Radio 24, alla Zanzara, quando parlò delle spese di Renzi in provincia, ti ricordi, no? Alessandro Maiorano. Indovina da chi ha assistito in questa sua battaglia contro Renzi? Dall'avvocato Carlo Taormina. Ottimo. Dimostreremo che le spese di... Senti come va l'attacco al professore. Maiorano ha portato fatture per 20 milioni di euro, secondo lui ricollegabili a spese pazze di Renzi. In relazione a questa iniziativa che ha preso, Renzi ha fatto una querela per diffamazione dicendo che quelle non sono spese pazze. Punto e basta, tutto qua. Noi dimostreremo che sono non pazze, folli. Poi dimostreremo che le spese di Renzi non sono pazze, sono folli le spese di Renzi. Va all'attacco, scusa. Professore, scusi, ma ha appena affrontato. Vai. Faremo altri processi. Senti, faremo. Ma questo comunque è. Questo è un cianarina, professore. Glielo dico subito, però, professore, in questo caso, no? Grande visibilità, processo contro Renzi. Questo è un processo, ne faremo degli altri di processi. Questo anno sarà un anno molto interessante, perché ne faremo degli altri questi processi, ma sempre con obiettività. Sono già in atto, c'è qualcuno che non si muove. e quindi si deve muovere. Che sarebbe, c'è qualcuno? C'è qualcuno che non si muove? No, ci sono gli altri processi che faremo. Renzi è protetto da qualcuno? No, io non dico che sia protetto, io penso a proteggere chi devo difendere, da chi si faccia proteggere lui non lo so, però dico con precisione che se fosse protetto ha sbagliato strada. Capire non fa capire, capito? Devo mandare un attimo un messaggio all'esercito di Parenzo. Perché? Che è successo? Perché anche questo weekend mi ha procurato qualche guaio. Che è successo? Perché, perché? Perché questi amici dell'esercito di Parenzo, che io non l'ho mai conosciuto, ogni tanto vanno in giro e bacchettano personaggi vari. I quali poi si incazzano e pensano che sia io, capito? Sì. Ad esempio, nel weekend hanno mandato un messaggio al signor Fabrizio Bracconeri, che indubbiamente aveva twittato una cosa che fa un po' ridere. Cioè? Però l'esercito ci ha dato giù pesante, l'esercito di Parenzo. Scrive il signor Bracconeri: addrizziamo la schiena, basta essere genuflessi a sti zozzoni. E l'esercito di Parenzo, che non sono io però, davvero, giuro, non sono io. Ma l'avrei già detto, commenta, su, non c'è bisogno. Il noto politologo Bracconeri ci omaggia anche oggi con un pungente editoriale via Twitter. Questo, sei incazzato, è passato all'attacco. È passato all'attacco, cioè con Bracconeri pensa che sei tu, insomma, sì, in sostanza. Esatto, esatto. Pure Bracconeri, dai, su. Ma non è mio l'esercito di Parenzo, ma lo davvero. So, basta. Ma questi perché scrivono rineghi, tutti. Ma perché non sono fan. Io, ma fossi io? Anche a Feltri hanno scritto: come Lotta, il direttorissimo Feltri, collegato dalla casa di Heidi, che poi era casa sua in montagna. Cioè, voglio dire, ma perché mi devono far inimicare tutti? Tutti. Ma la questione di oggi non è le battaglie di Renzi per l'Italicum e per il Senato non elettivo, i dissidenti nel Partito Democratico, si è spinto addirittura alla rottura il ministro Martina, pensa te, il ministro Martina, sì. Miracolato, diciamo la verità. Beh, perché nel suo essere, beh, miracolato, dai, cioè uno che stava con Bersani, cioè, poi l'hanno messo lì a fare il ministro dell'agricoltura, ministero che andrebbe abolito, è responsabile. No, come, uno dei ministeri più importanti. Ma che c'è invece. C'è stato un referendum che l'ha abolito. 2015 l'Expo, non so di che si occupa, dice: beh, noi l'Italicum, noi fa l'Italicum, bisogna vedere, va modificato l'Italicum, no? Si mette a fare la fronda, va benissimo, eccetera. Insomma, ci sono un sacco di problemi, però io ho posto una questione fondamentale prima, per tutte le donne, sono tante, no, che sono, no, che all'ascolto, sì, ma c'è già una che vuole intervenire. Ma insomma, avete o non avete il vostro attrezzo sessuale nel cassetto, nel comodino oppure in borsetta? Perché secondo me chi ce l'ha c'ha due palle, cioè chi ce l'ha è una vera femmina, una vera donna, altrimenti ma di che stiamo a parlare, dai, su, cioè, diciamo la verità, chiunque guardo in faccia gli uomini qui dal vetro, se non incontro una donna che ha in mano questo attrezzo, un vibratore, un sex toy, diciamo che non, dai, su, quando le incontro dico: ammazza, si arrabbiano come matti, diciamo la verità. Gloria, Gloria Trento, Gloria ci chiama da Trento, ragazzi, è così, a New York è così. Mi sono rotta le palle a stare a aspettare, ma comunque ci sono dei cazzi meravigliosi. Ecco qua. Cioè, scusi, non ci ho capito. Sono dei, ci sono, no, non hai capito? Sì, no, no, no. Spiritoso. Ci sono dei cazzi meravigliosi, più belli che in natura. Sì, ah, lei dice i sex toys, dice lei, no? I sex toys, ma sono stupendi. Beh, sì, ma questo vibrano, si muovono. È assolutamente nota questa cosa, è assolutamente conosciuta questa cosa. Non so cosa c'entri questo col tema delle riforme iniziali. Sì, ma voglio dire, non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo in borsetta, ce l'abbiamo nel comodino, ma lei ce l'ha nell'armadio. Lei ce l'ha, scusi. Io penso che, io c'ho anche perfino il cagnolino. Come il cagnolino, scusi? Quelli che chiamano i cagnolini da Lecca. Cioè, che sono, scusi, non ho capito. Mamma mia, ma chi è sta gente? Ma poi chiama pure. Scusi, da Lecca, per il signore Sole. Scusi, quanti anni ha lei, signora Gloria? 58. Beh, a 50... Mamma mia, ragazzi, ma che paese è? Ma che vuol dire che paese è? Ma che gente è? È la realtà, è il mondo, è la vita. Ma la realtà di gente che chiama così dicendosi... Ma... Scusi, perché lei ha questi aggeggi, diciamo? Come mai? Ma, così, una domanda... Perché secondo me l'autoerotismo femminile, sì, è molto più intrigante dell'erotismo con un uomo. Beh, nel adesso... Senso, su quel, questo c'è da discutere. Fare delle cose che sono, che ci soddisfano molto di più di quello che ci possa soddisfare un uomo. Beh, lei pone una questione fondamentale che discuteremo nel proseguo della trasmissione, cioè gli attrezzi, quelli che vengono chiamati sex toys, alla fine sono meglio oppure no? Mi sembra fondamentale, no? Ma la signora... Mi sembra fondamentale. C'è un'altra signora, Anna da Roma, per esempio. Forse che vuole intervenire Anna sulla questione Roma. Di Expo, magari, no? Anna da Roma, Anna da Roma. Chi mi dita da questi argomenti? Io volevo parlare, prima di tutto salutare lei e Parenzo. Sì. E poi parlare di quel miserrimo senatore di Forza Italia che prima... non può preparare gli emendamenti, sono due mesi che parlano di questa legge, adesso che sta alla fine, niente, si fa gli emendamenti così andiamo avanti altri 10 anni, facciamo sta legge, poi la correggeremo se non è, insomma guardi, sono miserrimi, guardi, quelli del PD che sono dissidenti, quelli di Forza Italia che sono dissidenti, vogliono solo che noi andiamo avanti altri 20 anni così. Perché io ho votato Berlusconi, poi ho votato Grillo, sì. Poi ora ho votato Renzi e sono fermamente convinta che se gli diamo una mano qualche cosa riusciremo a fare. Però non scusi un attimo, cara signora, non è che bisogna accettare tutto a scatola chiusa in tempi brevissimi. Uno può anche discutere senza essere considerato un sabotatore, senza essere considerato un conservatore, se è utile fare un Senato con 100 persone eletto indirettamente oppure abolirlo del tutto. Si può discutere del fatto che questa sia la migliore legge elettorale possibile oppure no. Oppure arriva Renzi e dice: siccome nessuno ha fatto niente prima, adesso approvate questa roba qui. Amica mia, no? Sentono 1000 persone, andremo avanti ancora 10 anni. Ma non è che si devono sentire 1000 persone. Allora approvino sta legge elettorale, non facciano il trucco, no? L'approviamo alla Camera, però poi aspettiamo le riforme istituzionali dal Senato. Approvino sta legge elettorale se pensano che sia il massimo del compromesso possibile. È comunque un compromesso. È un compromesso, sì o no? Perché ci hanno fatto due palle così su sto fatto delle liste bloccate. A me non avessero il coraggio di dire che ci sono le liste bloccate perché Forza Italia non vuole né le preferenze né i collegi. Lo dicessero esplicitamente. Che sia così, ma intanto andiamo avanti. Ma andiamo avanti, ma non è detto che si entra da una legge si esce da una legge e se ne trova un'altra migliore, ma anche perché questo qua mi sembra molto simile al, cioè i segretari dei partiti hanno ancora grande potere nel fare legge dei deputati, quello sempre, insomma, quello questo, c'è. Questo è chiaro che quello è normale che sia così. Vabbè, però, signora, grazie. Antonella Brescia, buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera. Dimmi. Io volevo, così è sempre a riguardo del Senato elettivo o non elettivo, portare alla riflessione un po' un articolo che mi è piaciuto molto ieri sul Corriere di Giavazzi a Lesina. Bravo, e diceva i moltiplicatori si passa della spesa, alla fine Giavazzi, Lesina, si eleggono, cioè uno si eleggono, questi senatori sarebbero mandati lì dalle regioni, ma se alla fine dobbiamo comunque chiederci noi cittadini, sì. Proprio tapini, ma dove abbiamo la sicurezza di mettere delle persone che non facciano come hanno fatto fino adesso? Ma infatti, guardi, a meno cioè che cosa? Che rubano? No, di fare sempre solo i loro interessi, perché alla fine anche questa gente qua che viene messa lì dalla regione avrà sempre l'idea di approvare questo o quel provvedimento che va in funzione del suo elettorato, del suo amico. Va bene, Antonella, il punto fondamentale è che bisogna fare delle cose che rendano un sistema un po' più veloce, più rapido, cioè il governo dopo un giorno. Da questo punto di vista io sono anche con Renzi, però troppi compromessi, troppe cose, troppi, cioè il Senato, cioè non è chiaro che funzioni avrà, è tutto un pasticcio, cioè va abolito, lo dico da tempo, tirare giù la Clair, anche se uno ci dovesse mettere 2 anni, bisogna abolirlo, cioè va cambiata la Costituzione, è abolito, non c'è la maggioranza, Renzi se ne faccia una ragione, non si può trasformare il Senato in un Senato con 100 persone, consiglieri regionali, perché addirittura si rischia di fare una cosa peggiore di quello che è adesso, infatti. Peggiore, molto peggiore. Antonio Caserta, Antonio. Pronto? Sì, dimmi. Pronto? Dimmi, Antonio. No, io non sono Antonio, io sono Virginio. Virginio, solo bene. Fare un intervento. Sì, no, ma Virginio, hanno sbagliato lì, il tecnico ha sbagliato canale. Io ho chiamato Antonio e mi ha messo in onda Virginio. Chi c'è adesso? Ditemi chi cazzo c'è, Antonio o Virginio? Ecco, Antonio giù, Virginio da Monza, avanti, Virginio. Allora, io volevo fare una considerazione personale su di lei, nel senso che la sento saltuariamente, sì. Ma quello che mi colpisce è l'arroganza, la volgarità. Sì. Proprio sopportarla, sì. Proprio la odio visceralmente. Io, se potessi, non so, cioè proprio la odio. Sì. E non so come fa Parenzo a stare insieme, perché si vede benissimo che è una persona più intelligente, perlomeno tollerante. In che senso mi odia però? Mi spieghi meglio, perché a me piace l'odio, però bisogna vedere fino a che punto. E l'odio è per quello, no? Cioè, che cosa, quando mi sente, che cosa provo? Che cosa prova quando mi sente? Un senso, un moto di repulsione. Vorrei proprio schiacciarti come una zanzara, spiaccicarti sul muro. Cioè, mi vorrebbe ammazzare. Mi vorrebbe ammazzare. È proprio. Proprio così, un odio viscerale, perché tu cerchi di imporre il tuo modo di pensare come se fosse. Cioè, se mi ammazzassero, assoluto, se no? Mi ammazzassero, lei godrebbe. Sì, sì, sarei la persona più felice del mondo in questo momento. Beh, proprio. Siamo al top, eh. Siamo no, al allora, top qui, sì, siamo sì, al top. Perché, scusi, Virgilio, però mi spieghi questa sorta di odio che le viene. Cioè, quando sente. È dovuto proprio a questo, prima di tutto è la volgarità, sì. Sempre continua, no? Vabbè, la costante, volgarità continua, no? Vabbè, sì, certo, costante. Vibratore, cioè, quello è il pettegoletto. Mai provato vibratore in vita sua? Lei, Virgilio? Mai provato vibratore in vita sua? No, assolutamente non ci penso neanche. Peggio per poi lei, poi peggio, guardi che è una cosa, guardi che è una cosa molto bella. È proprio questa tua convinzione. Ma guardi che è una cosa molto bella, lo provi con lei è sposato? Lei è sposato? È sposato lei? Sì, sì. Lo provi con sua moglie, guardi che potrebbe essere una cosa buona. Posso farti una definizione che ti farà incazzare? Dimmi. Tu sei una checca isterica. Perché appena vi dicono qualcosa di diverso ti incazzi e chiudi. Sì, no, veramente non sto chiudendo, mi stai dicendo che mi vuoi ammazzare, mi vuoi vedere morto che sto chiudendo. Esatto, esatto. Allora, è perché la trasmissione è così, perché tu c'hai il mano il microfono, puoi fare quello che vuoi. Ma ti sto facendo parlare, ti sto facendo parlare. Dal punto di vista non pensavo neanche, ecco. Quello che volevo sottolineare era proprio questo, cioè la mancanza di tolleranza, che invece mi vedo che Parento ha e viene sempre schiacciato dalle poi? Tue osservazioni. No, schiacciato mai, si combatte, mai schiacciato, mai. No, non so, anche parlando, quando parlavate dei barconi che arrivano, tu dicevi che bisognerebbe buttarli a mare e lui si è scandalizzato dicendo certo, ma non hai neanche un po' di pietà per questa gente, si vede una differenza enorme, no? Però scusa, mi ha fatto ridere, Virgilio, scusa, ma la signora di prima che ha tirato fuori il cane da Lecca... Era eccezionale. Una cosa pazzesca, però. Era eccezionale. Cioè, sarebbe da approfondire, Virgilio, ma tu non sarebbe da approfondire una cosa del genere? No, perché sono debolezze umane che non vanno esaltate. Debolezze umane, ma ti rendi conto di come ragioni tu, Virgilio? Tu ragioni da un vecchio, proprio un vecchio conservatore superato, passato. Cioè, una signora che interviene qui, sentita da centinaia di migliaia di persone, che dice: io faccio uso dei sex toys. Uso il vibratore e uso anche una cosa che io non conoscevo sinceramente, che si chiama il cane da Lecca. Ecco, si impara sempre, capito? Si impara sempre. Allora, capito? È un personaggio meraviglioso, caro Virgilio. Benissimo, però queste sono debolezze umane. Ma come debolezze umane? Ma quali debolezze umane? Ma se fossero tutti che dovrebbero fare così. Ma chi l'ha detto? Non lo so, perché ma provi con sua moglie lei. No, non lo voglio provare, cioè adesso con mio ci penso io, non pensarci tu, non preoccuparti. No, però ti voglio dare un consiglio. Quanti anni hai, Virgilio? Scusami, quanti anni hai? Scusami. Tanti, fa niente, mi manca per fortuna. Ti manca poco, perché? No, perché mi fa schifo questo mondo che tu rappresenti. Tu rappresenti un mondo baccato, un mondo disgraziato, un mondo pieno di queste bestialità, non lo so, io le chiamo, no? E non dai mai mondo cane alla... dicevano esatto, mondo cane è una serie di un proprio rappresentante proprio così che più eclatante, ecco, che esista, no? Eccetera, no? E purtroppo questo mondo sta andando alla deriva proprio per questo, per la mancanza di valori, per mancanza di serietà, e che io invece insomma sono ancora legato, ecco, e penso che sia fondamentale per la crescita dell'individuo e dell'uomo in generale e della società. Quando invece tutto va alla malora così va benissimo, cioè come te li guattano dentro, li pagano anche, mentre magari ci sono poveri cristi che si fanno il culo mattino alla sera e per guadagnare 800 euro al mese, come quando dicevi che quello là è presentato in una trasmissione e prendeva solo per un'intervista, non so se prendeva 1500 e si è scandalizzato, roba da matti, per dire cazzate come tutti i giornalisti. Cioè, ma approfondiamo questa cosa qua, secondo te se qualcuno mi ammazza, cosa che non viene in mente, per no, fortuna, ma per carità, dai. Tu sei contento, godi? Di che cosa devo dire? Se mi ammazzano. Vabbè, adesso arrivare quel fermo. Ma l'hai detto prima, adesso ti tiri indietro già. No, odio, sento un odio così, però dopo io sono anche come Parenzo, che lo nasconde, cristiano, perché è stato all'oratorio e ha avuto anche lui una certa educazione. Ah, no, perché sei stato cristiano all'oratorio. Allora non vorrei, sinceramente, piuttosto magari un campo di punizione, capito? Cioè che ti redimano, ecco, che ti fanno capire che stai sbagliando, capisci? Che sei su una strada sbagliata e che fai del male a te e a tante persone che ti ascoltano, che non hanno senso critico e pensano che il mondo vada così, che la cultura dominante sia questa e che non si possa fare nient'altro magari anche del bene a delle persone che stanno soffrendo, che stanno male. Fare tutto del qua. Bene a delle persone, ma per chi, delle parole, ma per chi mi hai preso, guardi, scusi Virgilio, perché... per chi mi ha preso per un onlus, per la Caritas? Non è la Caritas questa, non è la Caritas, non è una onlus, non è una casa di riposo. Però approfittare di uno spazio così enorme che hai, sì, per dire solo volgarità eccetera, questo qua mi colpisce amaramente. Io ti abbraccio forte, ti abbraccio forte e ti vorrei anche baciare, se non fosse forse sì, ho capito, se non così fosse di... più simpatico, perché nel senso che pensavo mi mettessi giù. Ti abbraccio fortissimo, Virgino, fortissimo. Vabbè. Ciao, mi raccomando, con tua moglie, se vuoi dei consigli chiami, che ti do qualche... No, lascia perdere quello. Ti dico qualcosa. Vabbè, guarda che qualche oggettino ogni tanto. Salutami Parenzo, che guarda che ciao, può, caro, guarda, ciao, che può servire, avanti, qua, avanti negli anni, quando uno passa un po' la passione, eccetera, si può ravvivare. No, perdere, guarda che si può ravvivare anche in questo modo, si può ravvivare la passione. Ma non ha bisogno. Vabbè, se non hai bisogno, alzo le mani. Se non hai bisogno, alzo le mani. Che problema c'è? Se non hai bisogno. Non ha bisogno, ma se non hai bisogno. Tutti vogliono parlare così. Ma no, ma il radioascoltatore dice che non è che tutto deve essere messo in piazza, non ha bisogno di parlare della sua sessualità come ha fatto quella signora lì, che per carità sarà anche normale, però cioè normale, insomma, mica tanto normale. Ma sarà mica normale una che telefona all'ora di punta in radio dicendo che ha un cane da lecca nel copo. Io non mi scandalizzo di nulla, me ne frego. Cerca di equilibrarla. Insomma, ma non c'è niente da equilibrare ormai. Se una chiama, guarda, parla Virginio, di un cane da lecca. Se tu vuoi un consiglio, io te lo do il consiglio. Ma non vuoi te lo do il consiglio, ti suggerisco anche posti dove puoi trovare, non sono non come a New York, serve. Perché in Italia ma non poi... mi interessano proprio, non sono ma perché? Da me, proprio. Ma perché? Perché li consideri una perversione, li consideri una perversione, li consideri una perversione. Ma no, ma aspetta, fallo parlare. Virgino, li consideri una perversione? I consigli di una perversione, ma io non no, li consideri una perversione, esatto, assolutamente sì. Beh, cioè una uno, debolezza che una debolezza. Se uno utilizza un vibratore, un sex toy, è un coso, è un malato, secondo te? Abbastanza, sì, sì. Beh, capisci? Perché penso che l'amore sia all'interno di un affetto reciproco, no, che allora questo è esatto. Che c'entra l'affetto, scusa? Sì, perché queste sono così soddisfazioni che uno si prende, ma diciamo resta l'amaro in bocca, secondo me, questa povera Cristo che si fa le care, schifo, capisci? Cioè fa schifo veramente. Quindi poveretta, cioè compassione di lei, ma... No, ma non è vero, non ma secondo me non è vero, è vero. Cioè quando quella signora prima parlava del cane da lei, cioè non è vero. Cioè è un gioco, non è in carne e ossa, o no? Che dici, Virginio? Ma ti ha colpito quella cosa di quella signora? No, ma a parte quello, ma tutta la tua trasmissione mi colpisce. Cioè ti fa schifo, ti fa orrore, ti fa... Sì, io la sento perché quando torno dal lavoro, cioè l'accendo e sento questa roba. Ti fa orrore. Provo sempre, sì, proprio una rabbia. Una ogni rabbia tanto ti provoca una rabbia pazzesca, una rabbia, dice lo ammazzerei, no? Esatto, proprio così. Però quando tu mi dici mi ammazzeresti, dopo magari non lo farei, ecco, cercherei. Però abbracciamoci forte, Virginia, abbracciamoci forte, Virginia, abbracciamoci forte, dai. Va bene. Tu che sei cristiano, sono cattolico, qua, abbracciamoci qui, tutti forte, dai, abbracciamoci soprattutto, forte. Soprattutto Parenzo, va bene. Ma, grazie, caro grazie, amico grazie. Mio, Virginia, ti voglio bene, ciao. Va bene, ciao. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Oh, andiamo a Caserta, signor Antonio da Caserta. Antonio da Caserta, meraviglioso, Virginio da Monza, molto bravo, Virginio da Monza. Battagliava, Antonio. Avete rotto il cazzo, parlate sempre di froci, no, di dazi. Oggi no, oggi no, no oggi guarda, mai, oggi no. Abbiamo detto che la Pascale andrà a Napoli domani, credo, dopodomani, i prossimi giorni, ad iscriversi all'Arcigay, dunque dalle sue parti andrà Antonio. Questa io abbiamo. Voglio che parlate di cose interessanti, vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. No, beh, dai, Antonio, su. È fissato, sono maniaco anche questo. Crucia, pronto? Sì, dimmi. Allora, io non ti ammazzerei, però ti darei tanti quei calci in culo. Ma perché? Che è successo? Ma hai tanti amici. No, però vedi, sei interessante, cioè nonostante tutto, voglio dire, io non sono quasi mai d'accordo con te, però... Ma che ho detto stavolta? Cosa ho detto? Ma scusami un attimo, alle 7:30, no? Cioè, Parenzo che si meraviglia della signora che ha telefonato per dire della sua... della sua debolezza. Ma io ho detto voi che parlate di vibratori, ma francamente, ascolti, abbiamo parlato di riforme, ecco, e poi ecco, mi è scappata una considerazione su un articolo. Posso parlare? No, ma scusa, io ho letto una cosa sull'Espresso. La tendenza ce l'hai, questa sull'Espresso. Ascolta. Ma scusate, ragazzi, ma non è che dobbiamo ignorare la realtà. No, non devi ignorare la realtà. New York, il paradiso dei sex toys per i newyorkesi e le newyorkesi. Vai ad Amsterdam, vai alla stazione Termini di Roma, ne troverai quanti ne vuoi di questi locali. Non c'è bisogno di parlare di New York, però voglio dirti una cosa. Adesso, sinceramente, tu sei una persona sicuramente preparata per fare un certo tipo di trasmissione, perché alla fine tendi sempre a derivare verso questi tipi di argomenti. Cioè c'è una persona che 2 giorni fa si è ammazzata in macchina, si è dato fuoco perché non aveva lavoro. Cioè ci sono tanti, una varietà di problemi che andrebbero chiamare focus economia, non si può chiamare, ho bisogno di offenderti. Ok, ma non è possibile fare un minimo di ragionamento se non si è allineati al tuo pensiero. Ma chi oppure ha detto? Se si può essere non allineati solo se ti trovi a parlare con qualcuno potente, importante, allora vedi, abbozzi, accetti. Se qualcuno cerca di fare ma che ti sto dicendo? Ma scusa, Antonio, ma che ti sto dicendo? Scusami, che ti sto dicendo? Ma diciamo, se fai queste battute cretine, cioè alla fine tu sei una persona che ha la forza del microfono, ma usalo come vibratore, sono convinto che ti piacerà tantissimo, perché si capisce chiaramente quello che sei. Che qua. Cosa sono? Ti piace sempre parlare di queste cosa cose sono? Ambigue, cosa sono? Omosessuali. Cosa sono? Dimmelo, cosa sono? Dimmelo! Froscio! Dimmelo in faccia! Che non può fare il froscio perché anche bravo, hai indovinato! Volete una cosa seria? Adesso vi leggo quello che ha scritto Andrea Salvatore per il suo blog che si chiama americanatvblog.com. A proposito di Floris, La Sette, eccetera, eccetera. Titolo è questo, ripreso da Dago Spia: La Sette con l'arrivo di Floris diventa la CNN italiana, punto interrogativo. Sai che culo, la CNN è morta. Le notizie globali sono la coppa del mondo, il sesso e gli One Direction. A noi resta solo la chiacchiera politica. Grande eccitazione per la nascita della All News della Sette, ma ormai la CNN è musica di accompagnamento in aeroporti e alberghi. Mentre in America si inventano nuovi modi di fare informazione, Jon Stewart, Stephen Colbert, John Oliver, Vice, noi continuiamo ad accasciarci sul divano a vedere altri accasciati sulla poltrona. Ragione al 100%, ma siamo con Oliviero Toscani da Parigi. Cosa stai facendo a Parigi, caro Oliviero? Toscani. Olivier, Monsieur Toscani. Ho sentito uno che ti ha appena insultato, ti ha detto delle cosacce. Siamo alla quotidianità. Sono Crociani, basta, finito. Ma sì, ma infatti bisogna dirlo, devo dire così, sono Giuseppe Cruciani e non mi rompe. Questi moralisti. Ma devo dire, sono Giuseppe Cruciani e non mi rompe i coglioni. Anche Crociani è moralista in modo suo. No, ma che moralista. Oliviero, stai meglio a Parigi che non nella Padova di Bitonci, no? Ma Bitonci? Come sta Bitonci? Bitonto a Parigi. No, Bitonto no. A Parigi sta bene, sono qui a lavorare, lavoro con il giornale El, un po' di moda, fantastico, fa bene. Belle donne. Saint-Germain, vi posso dire che il grande negozio di libri di fianco al Café Flore, dove io adesso sono in piedi, è stato buttato fuori i libri, è stato comperato dalla solita ditta grandiosa di borse e scarpe. Come tutto il mondo sta diventando tutta una monocultura di borse, scarpe e marchi di moda. Ti fa schifo questa roba, o no? Voi andate, no, ma ci sono gli stessi negozi dappertutto. È vero, però. Dio santo, prima c'era un negozio di libri qui fantastico, andavi dentro, trovavi dei vecchi libri, delle robe, fotografie. Via, arrivate le borse e le scarpe di lusso, signori. Però scusa, qui in Italia, caro, anche a Milano, a Roma, tutti uguali. Sì, vabbè, ma volendo le cose che piacciono a te si possono trovare. No, magari ma lui non dice nelle... un'altra cosa. Sì, dice... un posto storico. Era, ma lui ha ragione. Cioè, se tutto... C'era questo negozio di libri che ha fatto, certo, storia. Niente, c'è più, adesso vai dentro e compri scarpe e borse di lusso. Che trovi anche in Italia. Hanno, come quelle che hanno tutte le, esatto, cameriere che vogliono sembrare ricche, no? Scusami, però Oliviero, qui la cosa è molto chiara. A quelli là che vendevano i libri storici, gli hanno dato un sacco di soldi. Quelli stanno a Ibiza, ai Caraibi. È arrivato un negozio che ha tantissimi quattrini del vestito. Me la prendo con loro, me la prendo. Ci sono dei negozi che sono storici, insomma, non so, però butti giù la Torre Eiffel perché vuoi fare un condominio, ma chi sta. Senti una cosa però, Oliviero, io ti volevo chiedere, ma come la vedi questa svolta gay dentro Forza Italia con Francesca Pascale che si iscrive all'Arcigay a Napoli, come la vedi? È la disperazione? Ma lo so, io forse meglio tardi che mai. Berlusca, lo so, io forse ho capito. Ci sono godimenti anche da altre parti, lo so. Dici, può darsi, non so, io non voglio giudicare, ma la sessualità è una cosa fantastica, perché ognuno fa quel cavolo che vuole. Certo. Ma tu, per esempio, una donna che porta un vibratore in un cassetto, in una borsetta, come la giudichi? Trovo una che vuol godere, scusa, non è male. Sono quelli che leggono i libri, quelli che vanno al cinema, quelli che si va e quella che porta il vibratore. E quella che si compra la borsa di lusso, quella che si compra il vestitino di lusso, è la stessa roba. Io mi sono spinto a dire che chi non ha un sex toy, chi non ha almeno un sex toy, adesso l'allargo in questo modo, di qualsiasi tipo, beh, insomma, non è una vera femmina chi non ha un sex toy. Tu pensa solamente se tu e Parenzo siete due sex toys. Siete due sex toys? Non, perché se non lo siete, siete due seghe. Beh, un po' sex toy ogni tanto mi sento io, sì. Un po' sex toy ogni tanto. Sì. Sex toy, sì. Ogni tanto sì, ogni tanto. Anche sì. Parenzo di sicuro non lo dice. Ma Parenzo no, Parenzo. No, è un uomo ritirato. È un uomo che ha abbandonato qualsiasi velleità sessuale. Ma questo no, è che non ne parlo. No, ma è che non ne parlo alla radio, diciamo, perché non ne trovo. Ma non è che biasimo chi lo fa, ma non ne parlo io alla radio. Ecco, ma di cosa? Insomma, di cosa? Nessuno te lo chiede. Ma nessuno, appunto, ma non nessuno te lo chiede. Tu invece sei. Senti, ma ragazzi, ma avete visto che si inchinano davanti ai mafiosi o no? Ma è una cosa pazzesca. Ma tu non consideri le processioni una cosa barbara? Io lo considero una cosa barbara. Basta, le processioni. No, a parte il crocefisso, anche le processioni. Appunto, dico io. Scusa, no, barbari, sì. E poi chiaro, il paese di servi, chiaro, i servi si inchinano davanti al padrone e al potere. È tipico degli italiani. Cioè tu dici che il paese di servi, perché un paese ma la nostra grande fortuna o sfortuna è che noi siamo un paese di servi. I servi cosa fanno? Si inchinano al padrone, anche se lo odiano, ma si inchinano. Scomandi, mi dica cosa devo farci o farò un. Ma tu le processioni parlano così, A te piacciono le processioni ma ridere, Madonna, una roba di un primitivo, di un coso così incivile in un certo senso. Anche secondo me. Di un segno di un'inciviltà incredibile, comunque di una primordialità, ma sono belle, sono folcloristiche. No, sono belle, però sono primitive. Sono belle, è molto facile da fotografare, perché c'è tutto il sangue, i cristi, le madonne, gli ginocchiamenti. Sì, però è qualcosa di... Ma dovrebbe essere vietato costituzionalmente, dai, è una roba immorale. Ma sì, diciamo la verità, su questo sono d'accordo con Oliviero. Vietiamo questo, soprattutto se poi c'è l'abitudine a fare l'inchino di fronte a casa dei mafiosi. Vietiamo queste buffonate, dai. Ma che delle baracconate primitive. Qualsiasi processione, quella è la più ovvia, con la Madonna. Sì. Ma qualsiasi processione, per esempio, processione politica, si inchinano ad Arcore. Sì, la processione, sì. Ma è chiaro, tutti si inchinano di fronte al padrone. Anche la processione, per Berlusconi ad Arcore, ti ricordi che andavano sotto Arcore lì in processione? Si inchinavano, no? Insomma, l'altro giorno la Biancofiore ha detto una cosa: bisogna portare Berlusconi in processione. Bisogna portare Berlusconi in processione e farlo vedere come un santo, in giro fantastico. Come un santo. È la stessa cosa, ragazzi. Quando sarà imbalsamato, io lo vedo là. Quando saranno imbalsameranno, lo metteranno su uno di quei portantine. Tutto imbalsamato, con dietro la Biancofiore, no, perché, in processione. No, perché Lenin l'ha messo nel mausoleo. Berlusconi sulla portantina in piedi. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Quando la zanzarita torna. croce. Provincia di Reggio Calabria. Oppido o Oppido, Mamertina, sentite cosa accade. Don Rustico dice che i portatori sono ingestibili, cioè non sono lì a fare sostanzialmente il lavoro di chiesa, ma sono loro che possono essersi fermati per l'inchino al boss. Il maresciallo ha tentato di parlare con alcuni membri del comitato per dire: guardate che quest'anno sarebbe opportuno non girare in questa via, perché si potrebbe prestare a questa interpretazione. I quali, presi alla sprovvista, hanno detto: vediamo quello che possiamo riuscire a fare. Ma nessuno poteva garantire diciamo, la riuscita dell'operazione, perché i 100 portatori che portano la Madonna poi diventano ingestibili, diciamo, visto la foga, visto il peso, da questo punto di vista. Invece la figlia, credo, la figlia del boss, che si chiama, Domenica Mazzagatti, dice: orgogliosa di mio padre, che è stato condannato per l'ergastolo, ma insomma questi qua davano in pasto la gente ai porci, cioè non è che erano dei santerellini, insomma. No, signora Mazzagatti dice: sono orgogliosa di mio padre che ha sempre lavorato. Beh sì, dipende, che abbia come, lavorato però. Non c'è dubbio, dipende come e dove. Sono orgogliosa dei miei familiari, sono orgogliosa di mio padre, sono orgogliosa di chiamarmi Domenica Mazzagatti e sono orgogliosa di mio fratello, dei miei nipoti, di tutti, perché sono persone che hanno sempre lavorato, perché no, perché sono persone che si sono fatti sempre i fatti suoi, hanno sempre lavorato, hanno un lavoro, li hanno distrutti. Beh, li hanno distrutti perché hanno fatto qualche indagine. La voce della Marchi mi ricorda. Rimettila. Rimettila. Mio padre! Rimettila. Prova se all'inizio, solo all'inizio. Hai sentito questa? Sono orgogliosa dei miei familiari. Sono orgogliosa di mio padre. Dai, su. D'accordo! D'accordo! Abbiamo da Parigi Oliviera Toscani, ve lo diamo per 50.000 euro, d'accordo? Ma come d'accordo? Ma perché non si vede? Come state? Sono Parigi! Ma hai sentito che voce c'ha? Hai sentito la figlia del boss che voce che c'ha? Come non l'ho sentito, troppo. Dai, ragazzi, ma questi paesi qui sono. Ma questi paesi qui sono irrecuperabili, ma cioè non. No, è vero, è vero. Ma non c'è niente. Ma non c'è niente da fare, bisogna andare a Parigi, ha ragione lui. Ma dai, ma non si può. Ma che sono posti irrecuperabili. Sono posti. Ma quali paesi qua? Quelli lì o Padova, non so io, ma no. No, vabbè, non puoi, non puoi. No. Non puoi questa paragonare, la mia dai. Città, per carità, dai, non puoi paragonare può. con tutto. No, ogni città ha una sua strana morte. Vabbè, ma qui siamo, dovrebbero mandare l'esercito domani mattina. Quando succedono queste cose? Con la figlia del boss che urla, col boss che sta lì malato, credo, eccetera, col prete che fa questo, con la processione che si inchina, basta, esercito, domani chiudiamo, commissariamo tutto, esercito, fine, chiuso. Tu sai che uno dei miei primi lavori che io feci, ero ancora studente, scuola d'arte, per l'europeo, allora c'era un giornale che si chiamava l'europeo, era proprio le connessioni fra clero e mafia in Sicilia, sì. Nel 1964, quindi capisci, non è una cosa nuova questa, dai. No, per carità. Clero e mafia. Senti un'altra cosa, Domenica Mazzagatti, numero uno, senti. Troppo bella. C'è nessun rapporto, qua non hanno non giangite e non niente. Tutte quelle menzognità che hanno detto sono solo falsità. Non esiste la 'ndrangheta. Non è vero niente, sono solo falsità. Azzagatti Domenica, potete scrivere bello grande tanto. Com'è che fa Parenzo? No, devi rimandarmi un po' di ambulanze, mandategli un po' di ambulanze. Aspetta, non è vero niente sulla 'ndrangheta, rimettiamolo. Non c'è nessun rapporto, qua non ha non giangita e non niente. Tutte quelle menzognità che hanno detto sono solo falsità. Non esiste la 'ndrangheta. Non è vero niente, sono solo falsità. Azzagatti Domenica, voi potete scrivere un bello grande tanto. Tutte le menzognità, dai, bellissimo. È stupendo, è meraviglioso. Parenzo, com'è che fa? Ma quale menzognità? Solo a Cruciano, alla radio, lo dicono queste cose. Oh, tutta gente buona. Se qualcuno ha sparato, va bene, sparato dove? Chi ha visto? Tutta menzognità sono. Hai visto i padovani come si si travestano subito, persino la voce cambia. Ma no, ma lui parla siciliano adesso. No, mio nonno era siciliano di Catania. Mio nonno. Vabbè, comunque, ragazzi, perfetto, siamo in un altro mondo, non è Italia quella roba là. Dai, su, è un altro mondo. E anzi, è purtroppo in parte l'Italia. Maridi. Ma è, ho capito, rido anche, ma è un'altra Italia, ma non è l'Italia, dai, su, ragazzi. A una che parla così, Domenica Mazzacatti, adesso viene qua la Non è come parla, è quel che dice più che come parla. Non sono così bravi al cinema, non sono così bravi. Sì, ma una roba da cinema, no, però purtroppo ammazzano la gente, no, quella là, diciamo, in Calabria. Vabbè, ragazzi, traffico, poi torniamo ancora con le vero Toscani. No, perché... no, lasciami andare. No, due minuti. Lì, ascolta, no, che traffico, cazzo. Vai a cena. Aspetta, aspettiamo il traffico. Vai a cena nel mare. Oliviero? Vai a cena nel Marais. Nel Marais c'è un posto molto, molto buono. Ma che cazzo ne sai tu del Marais? Io conosco benissimo Parigi. Ma è pieno di ristoranti a Parigi. Ma fa Parigi, la tu non spendi mai soldi. Quando vieni, abito a Parigi. Io. Stupendo, c'è un posto ma di specialità. Ma li sai, non è che c'è bisogno dei tuoi consigli. No, ma dimmi, però qualcosa. No, perché lui. Perché... Dimmi invece un ristorante a Padova dove posso portare fuori a mangiare il sindaco. Ah, perché vuoi invitare a cena il sindaco? Uno molto buono è Le Calandre, che è vicinissimo a Padova. Ma da ricchi, voglio andare a un posto da Barbonio. Posto da Barbonio, ma non è da Barbonio. Aspetta, aspettate, la Bonisa sia l'Anfora. Allora, molto buono l'Anfora. Dove c'hanno il crocifisso attaccato? No, allora, aspetta un attimo. Biton ci ha annunciato oggi: in 30 giorni abbiamo fatto un'aggiunta, chiuso il bilancio preventivo, tagliate le tasse, diminuito dello 0,1% l'IRPEF. Aspetta, messo al minimo la tassi sulla prima casa, chiuso un mini market africano dove spacciavano droga, tagliato del 10% l'indennità di tutti gli assessori, tagliato le 2000 crocifissi. Aspetta, lo dice, tagliato le auto blu, rivisto l'ordinanza sul consumo degli alcolici, rivisto alcuni cantieri dei lavori pubblici, chiesto che il crocefisso diventi obbligatorio negli uffici pubblici, bloccato la concessione delle palestre per celebrare il Ramadan. Tutto questo in un mese praticamente, in 30 giorni, capito? E non ha querelato a Toscani, no. E poi anche sì. E poi sapevo che avrei creato una serie di mal di pancia specialmente nel mondo della sinistra, capito? Questo dici. Mal di pancia, figurati. E poi ha aggiunto troppi dipendenti nei corridoi in comune, li taglierò. Vuole tagliare i dipendenti del municipio. Dai, taglia anche le palle. Senti, lasciami andare, devo correre, mi aspettano. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, fate i bravi, continuate. Continua così, brutti finocchi. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. Sono orgogliosa dei miei familiari, sono orgogliosa di mio padre, sono orgogliosa di chiamarmi Domenico Mazzacatti. D'accordo? Gratta, ma per effettivamente un po' di. È uguale. Un po' di. No? La voce è uguale. Dai, ma stai paragonando Vanna Marchi alla. No, immaginavo alla, alla moglie del. La voce. Del ripeto, mafioso. La dai, su. Voce. Ma non ho paragonato, la voce, immaginavo che mi tirassi dentro. Ma poi anche cosa. Il nome Mazzacatti. Vabbè, questo sai. Dai, su, Mazzacatti. La voce è simile, ricorda un po'. La voce, dai, solo su. La voce. La voce. Simone da Firenze, buonasera Simone. Non c'è più. Alex da Roma, dai, forza ragazzi. Buonasera su. Giuseppe, buonasera David. Volevo dirvi che dobbiamo smetterla di vivere in un paese bigotto. Assolutamente i mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. E bravo. Devono essere loro i primi a regalarli alle mogli. Anzi, ci sono tanti partiti che si dicono per la famiglia. Allora se si dicono per la famiglia devono prendere i provvedimenti. C'è un'aliquota al 36% di IVA sugli oggetti sessuali. Ma veramente stai dicendo che c'è una tassazione così alta? Sì, l'hanno alzata. Su pornografia e... Beh, è giusto però. Ma è giusto cosa? Giustissimo. Ma cosa giusto? Ma di che parli? Non è giusto, Davide. No, scusami. È giusto, sai perché? Perché siccome da qualche parte i soldi li devi recuperare. Ah sì, allora quelli che consumano sesso si vanno a prendere. Io preferisco che recuperino i soldi da un vibratore piuttosto che da un poveretto. Davide, tu sei sempre fuori per lavoro. Che ipocrisia. E devi capire che tua moglie... Da qualche parte vai a prendere le sigarette. Ma falla finita. Cioè, che non ho capito, Alex, cosa hai detto? No, diceva David che lui che è sempre fuori per lavoro, sì, deve capire che sua moglie, la sua compagna, vabbè, ma si preoccupi, può assolutamente fare a meno. Ma chiunque può, ma non è quello il tema, guardi, è senza anche quello, di come sé. No? Beh, quello no, sarà no, per e, te. E soprattutto ma quello, il tema è un altro, le sigarette, ad esempio, è giusto che abbiano aumentato la tassa sulle sigarette? Ma le sigarette, sono una cosa, ma le come su altri oggetti volontari. A parte che secondo me non è giusto, ma giustissimo, fino a un certo punto è giusto. Sull'alcol, poi a un certo punto alcol. come sull'alcol, cioè da qualche parte li devi recuperare. No, non devi recuperare, devi recuperare tagliando la spesa pubblica, anche, capito? Certo, no, ma su alcuni oggetti puoi mettere la tassa più alta e considerare oggetti di lusso. Ti stanno fottendo, ti eri illuso con gli 80 euro, ti stanno fottendo, aumentano le spese dappertutto, aumentano le tasse dappertutto, anche per fare l'opposizione a una multa aumentano, capito? Aumenta. Giuseppe, dimmi. Giuseppe, volevo soltanto aprire una parentesi invece sulla questione di Offido. E dire che un paese dove c'è una processione che coinvolge tutti gli abitanti del paese e gli unici che sentono il bisogno di abbandonare la processione sono i carabinieri, perché quella processione sta facendo un inchino davanti a questo una... lo sappiamo, allora? Ecco, quella processione è diventata Mafia Pride. E allora se tutti quei cittadini sono rimasti là, quei cittadini sono tutti quanti ndranghettisti, si devono considerare ndranghettisti, tutto qua. Vabbè, adesso non esageriamo, noi possiamo fare la retata in tutto il paese, cioè, semplicemente perché c'è stato l'inchino. Ma è chiara la mentalità, l'abbiamo sentito dalla moglie di questo signore, no? Andiamo... ma sentono tutti bisogno di inchinarsi al boss, evidentemente condividono il gesto, tutto. Beh, qua. Potevano abbandonare come i carabinieri quel pezzo di strada, questo sicuro. Alessandro da Torino, Alessandro. Sì, pronto. Dimmi Alessandro. Buonasera Cosciari, buonasera Parenzo. Allora, hai lanciato a inizio trasmissione un argomento caldo ma bellissimo, l'uso dei sexy toys. Allora, ho sentito gli interventi che fanno venire fuori davvero quanto siamo retrogradi, perché anche in Italia i sexy toys invece sono molto usati. Però io mi segnalano che tu sei titolare di uno shop. Bravo. Online, no? Bravo, sì, esatto, con il sistema del Dropbox che è molto diffuso. Beh, certo. Beh, per cui con te sfondiamo una porta aperta, che c'è? È chiaro che tu sei favorevole alla diffusione la più ampia possibile di questi strumenti, attenzione, no? A usare termini come sfondiamo. No, ma è vero, perché io poi noto dalle vendite, facendo un po' di analisi anche sul sito, perché anche un negozio online va un po' gestito come un negozio normale, bisogna vedere le statistiche di vendita. Io ho avuto un incremento dall'inizio anno e devo dire che, essendo online, ci sono molte registrazioni, ma io ho anche un info line telefonica per spiegare. Vabbè, adesso non facciamo pubblicità. No, non entro nel merito, per carità, però c'è davvero un incremento delle vendite e molte sono donne. Quindi, ma certo, ma è normale che sia così, come ho detto all'inizio. Non facciamo i bigotti. No, e poi ma nessuno fa il bigotto, benissimo. È una cosa benissima. Sì, ma in Italia, per esempio, i posti dove si possono acquistare cose al di là di internet, sì, sono tutti come, no, visti come un luogo di perdizione, un luogo di pervertiti, tipo striboli, non sono dei posti meravigliosi, lussuosi. Bravo, una bella vetrina illuminata nei posti dello shopping. Ma che problema c'è? Perché abbiamo questo vecchio retaggio dove chi usa i sexy toys vuol dire che non è forte sessualmente. Ma non è vero, è come se un bravo cuoco mettesse un po' di pepe e peperoncino alla fetta sul gatto. E cos'è? Non è un bravo cuoco? E questo mette un po' di peperoncino. Beh, la metafora. Ma che cavolo. Grazie Alessandro. Zeno Roma, ma... Zeno, no, che non è Zeno Colò, credo, perché quello è, anche perché buonasera, è morto. Anche perché è morto. Buonasera. Scusate, io volevo fare una piccola osservazione. Caro Zeno. Sì, scusa, per tu Giuseppe. Dimmi, caro, dimmi. Ho sempre seguito la vostra trasmissione, seguo Radio 24, sì. Però c'è una piccola incoerenza in quello che fate, quello di usare le parolacce. Vabbè, ogni tanto succede. Stasera, per esempio, pochissime. Lo so, probabilmente l'intervento del signor Virgilio è stato un po' una... Beh, ma lui ha parlato, mica ho parlato io. Abbia sì, lo so, tu l'hai sempre aggredito. Allora, è una trasmissione ottima, eccellente, però se levate le parolacce diventa ancora meglio. Vabbè, Zeno, però lei resiste lo stesso, perché la sento che resiste lo stesso, nonostante qualcosa le dia fastidio. C'è sempre qualcosa che dà fastidio nella vita. No, le parolacce no. Guarda, io probabilmente ho una vecchia concezione del modo di parlare, del modo di essere. Sì. Ma le parolacce, secondo me... Ma lei qualche volta le dice in privato, le parolacce? Beh, in privato, ma quando sono arrabbiato, ma non in maniera usuale come fate voi. Secondo me, guarda, quando metti all'inizio della trasmissione quel ragazzo che dice per me è come andare al bar a discutere con gli amici quando sento la vostra radio. Però al bar le parolacce ogni tanto. Però al bar le parolacce ogni tanto si dicono, io le sento, Zeno, mi dispiace per te. La trasmissione è ascoltata a livello nazionale. Appunto. Quello non c'è dubbio, non è a livello regionale, è a livello nazionale, sì, questo no, lo sapevo. No, assolutamente, però secondo me è una mia osservazione, il mio punto di vista. Ma Zeno, che fai tu nella vita? Io faccio il pensionato. Beh, sei al top, adesso. Sei al top. Con quanta pensioncina? No, purtroppo mi hanno messo in pensione, io non volevo. Però ma quant'è la pensioncina? Quant'è? se me lo dico a te quanto è Vercencina. No, perché? Che, no. Qual è il problema? Amico mio. No, mi sembra una cosa molto personale questa, scusate. Ma è vabbè, pensione, zero, comunque, mica no? C'è da vergognarsi, magari sono pure soldi nostri. Io non mi vergogno mica. Una bella pensione comunque. Baby, sarà una baby pensione. No, vivere, io in famiglia, siamo in quattro e dobbiamo vivere. Sarà una baby pensione sicuro. Sarà una baby pensione, sarà stato uno di quelli agevolati. Ma quale baby pensione? Mi hanno cacciato, io volevo lavorare, voglio lavorare e nessuno mi vuole più. Ma sarà una roba da privilegiati sicuramente, sarà una, se non lo vuoi dire, una roba da privilegiati. Ma no, vabbè, se andiamo coi numeri probabilmente avete ragione, ma qui c'è eccolo, vedi, quanto prendi? La 4.000, la 5.000? Ma che ha detto il Papa ieri? La 4.000, la 5.000 prendi, dai. Il lavoro è dignità, il lavoro vabbè, è dignità. Ma cioè, non è che ci voleva il Papa per dirlo, cioè... Papa, la maggior parte delle volte dice delle banalità terribili. Capisco, ma ecco, siccome io ho rispetto per il vostro lavoro, perché voi state lavorando, mi sono permesso di fare una piccola considerazione. No, ma lei ha fatto benissimo, le volevo dire, lei prende la 4-5 mila di pensione. No, 6. 6, bah, siamo alto. Statale, dallo Stato, pagato dallo Stato? Dallo Stato pagato? Sì. Dallo Stato, la 6.000, Zeno. Siamo al top, 6.000 al mese di pensione. Sono intervenuto per 6.000 al mese, amico mio, 6.000 al mese dallo Stato. Scusa, la Radio 24. Scusa, Zeno, ma tu sei col vecchio sistema, quell'altro, il sistema vecchio. Quell'altro. Un po' perché sono andato da poco. Vabbè, rubi un po' di soldi allo Stato. Ma perché ruba? Rubi un po' di soldi allo Stato. Ha lavorato. Ma perché lo Stato non mi fa lavorare. Rubi un po' di soldi, amico mio. Cioè, alle generazioni future. Rubi un po' di soldi alle generazioni future. Un po' di. No, hai ragione. Hai ragione. Tu devi dire, io sono in pensione. Sono in pensione dallo Stato con un sistema un po' contributivo. E un po' l'altro sistema, come retributivo. Retributivo. E dunque mi sento un po' là. Mi sento un po' di avere. Non lo dirà mai, poveretto. Sì, mi sento un po' in colpa e dovresti dire: mea culpa, mea grandissima colpa. Sono... Chi mi ha mandato in pensione? Allora io ti dico questo. Ho capito, ma sei un privilegiato? Ti senti un privilegiato? Sì o no? Ti senti un privilegiato? Ti farei lavorare. Ma ti senti privilegiato o no? Ti senti un. Andiamo in prevenzione. Questo hai ragione. Ma ti senti un privilegiato o no? La spesa improduttiva sta continuamente aumentando. Mandando in pensione alla gente, la spesa improduttiva aumenta. Ma ti senti un privilegiato o no? E lavoreranno solo 2-3 persone. Ti senti un privilegiato o no? Purtroppo. Purtroppo sono un privilegiato. Sei un privilegiato. Siamo sulla 6.000, la 6.000 al mese. Sì. L'aspettativa di vita appunto. È 80 anni. Appunto, tocca per 20 anni, per 20 anni dobbiamo cacciare i soldi, per 20 anni cacciare i soldi, amico mio. Ma voi che avete una risonanza nazionale, queste cose dovete dire. Lo Stato. Ma lo sto dicendo, ma se tu mi dici io sono un privilegiato. Far lavorare, ma anche a spazzare la strada, a levare la spazzatura, li devi far lavorare tutti, perché quello che manca in Italia è la serietà del lavoro. Il lavoro è una cosa seria e vabbè, adesso queste sono parole, dai. Grazie amico mio, grazie signor privilegiato. Ciao. Ciao Parenzo, ciao caro. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Allora andiamo a Modena da Sandro, Sandro da Modena, buonasera Sandro. Buonasera, sono Sandro. Volevo dire una cosa riguardo agli argomenti che sono stati. Argomenti, nei giorni scorsi. Sì, allora? Si parla di prostituzione, si parla di donne che affittano l'utero per fare dei bambini, insomma. Sì, ottimo. Queste cose, no? Allora io volevo lanciare un sasso nello stadio. C'è un ritorno esagerato. Beh, noi sentiamo benissimo, per cui vada avanti, non si preoccupi. Va bene. Volevo dire che per me le donne che si prostituiscono sono da equiparare a quelle che affittano l'utero. Vabbè, ma lei sta delirando, Sandro? No, non sto delirando. Cioè, secondo lei, quelle che danno l'utero in affitto, cioè quelle che ospitano un seme dentro e che fanno nascere un figlio, come quella donna della fotografia con i due gay, quella donna lì è equiparabile ad una prostituta, secondo lei? Guardi, a parte che io non do alla parola prostituta nessun tipo di accezione negativa. No, lei sì, invece. Lei sì. No, assolutamente. Mi ha sentito dire delle brutte parole. Ma non ho capito, lei dunque dice prostituta semplicemente perché si fa dare del denaro, in questo senso? Esatto. Vabbè, ma perché allora la paragona ad una prostituta? La potrebbe paragonare ad una manager, per esempio? No. Beh, oddio. No, le dico di più. Sì. Una prostituta, sì, come chiunque affitta l'utero, sì, o anche addirittura, sì, chi vende degli organi, no, in realtà non li vende, li dà solo in affitto, tanto che si parli di organo genitale. Vabbè, ma ho capito, Santo, dove lo vuole arrivare con questo discorso? No, voglio arrivare che noi, cioè inteso come essere umano, diciamo che la vita è nostra e facciamo quello che vogliamo, in realtà non è vero. Ma che vuol dire non perché è vero? Perché noi abbiamo solamente il nostro corpo, l'abbiamo in uso. Vabbè, questo è ubriaco, No, l'abbiamo in uso e nemmeno in uso gratuito, lo dobbiamo anche mantenere, è come se dovessimo mantenere un animale. Ma lui hai capito tu? No, non ho capito, ma cioè, è partito sono bene, poi mi sa che l'alcol ha fatto un po' di effetto. Ma no, concordo con lui, io non dico prostituta, dico che è una cosa mostruosa l'idea. Cioè l'utero che... in affitto lo trovi una cosa mostruosa? Una cosa non mostruosa? È una cosa mostruosa, no. L'idea che una il progressista possa... Parenzo, lo pseudo progressista Parenzo pensa c'entra? Che l'utero in affitto ma sia una cosa sono barriere mostruosa. No, va bene. Non c'è in cioè, questo... tu sei conservatore sul sesso. Sei conservatore sul sesso, semplicemente non è no, parlo sei conservatore, ma, non sì, ma sei conservatore, dai, ma lascia perdere il comunicare e parlare. Sei conservatore. Ma questo lo dici tu. Io ma no, lo so, ti conosco. Sei conservatore sul sesso. Quello che io faccio. Sei conservatore, ma non sul sesso in generale, oddio, non quello che. Senti, la volgarità lo dice a qualcun altro. Non lo vendo con questa volgarità, lo dice a qualcun altro. Questa volgarità così non ne parlo. La volgarità lo dice a qualcun altro. La mia intimità non la uso. Ma non sto parlando di questo. Dico. Ma io nemmeno, non ti preoccupare. Beh, tu sì, tu no, non ti piace, no. Ti diverte, ma è un gusto. E stai tranquillo e stai calmo con le parole. Primo. È una mostruosità che tu. No, quell'altra è una mostruosità. È una cosa che tu vendi un tanto così che ti piace, di cui ti piace parlare. Metterla. Andiamo oltre. È come quelli che si mettono nudi in terrazza. Andiamo oltre. Non è che è brutto. Andiamo oltre. Non mi metto nudo in terrazza. Andiamo ecco. Oltre, tanto sei. È come mettersi nudo in terrazza, ma a te piace, va benissimo. Va bene, d'accordo. Mentre è una mostruosità, sì. Secondo me, sì. L'idea che una donna possa tenere in grembo un bambino per 9 mesi e sì. Poi già sapere che quel bambino lo sgraverà ma e poi lo darà suoi, un'altra. Dal suo punto di vista, dopo il problema del rapporto del bambino con questa signora è un'altra cosa. Mostruosa un'operazione di questo tipo. Allora, il però progressista poi... Parenzo, il progressista Parenzo si ferma di fronte, di fronte all'utero in affitto, dice davanti all'utero in affitto dice poi una mostruosità, davanti all'adozione, omosessuale, il progressista Parenzo, quello dei diritti dei rom, cioè, sull'adozione ho qualche dubbio, non ho una certezza. Su quello ho dei dubbi. Fermi tutti, collegamento con Barnard. Con il professor Paolo Barnard, buonasera. Buonasera. Come buonasera. Come sta? Si potrebbe andare decisamente meglio. Come giudica le politiche economiche di Renzi a livello europeo questi incontri che ci sono stati? Parenzo, mi sembra che sia fondamentale questo tema. I polli europei hanno fatto la rivolta, hanno preso le pennucce e hanno fatto brr, brr, brr. Il Parlamento europeo ha detto brr, brr, brr e Matteo Renzi se ne frega. Scusi, ci può spiegare in maniera più chiara? Ci può spiegare Barnard adesso che è finita la gabbia? So che lei non ha niente da fare adesso. Taci, porco dell'informazione. A chi lo dice questo? Allora, per essere espliciti, il cocige della Merkel non è capace di tirar fuori un centesimo in più di quello che la Merkel gli ha detto, ok? Abbiamo capito che per te Barnard Renzi è il cocige della Merkel. Cioè... Renzi è l'uomo delle lenticchie, l'uomo del gioco delle tre carte. Raccontiamo allora la posizione anatomica di questo signor Renzi rispetto al presidente di Consiglio italiano che è a Angela Merkel. Ma che dici? Taci, tecnocrate della radio, servo del potere, escremento dell'etere. Cruciani, tu ne sei più rappresentato. Nessuno. Ma che vuol dire? Nessuno è che più vuol dire, Barnard? Che vuol dire? perché il tuo presidente del Consiglio non si chiama Renzi, che è il carcere di Angela Merkel. Quello sì. che ha detto all'Europarlamento è agghiacciante, antiparlamentare, anticostituzionale e antidemocratico. A cosa ti riferisci in particolare? Scusa, ha detto tante cose. Angela Merkel ha detto che se l'Europa oggi si facesse un selfie, termine particolarmente rocambolesco, emergerebbe il volto della rassegnazione, ok? Sì, e allora? Lui però non ha detto che se si facesse un selfie lui emergerebbe la posizione anatomica della Merkel, ok? Va bene, grazie, grazie a Paolo Barnard, ciao. E anche Schulz ha fatto Ma che ogni volta così? Il volto che fa brr. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Ah, Mimmo, provincia di Cremona. Ma questo qui da dove li tiri fuori questi personaggi? È Paolo Barnard, quello della gabbia, lo conosci? Sì, sì. Ma dunque io volevo semplicemente... Ma lo conosci Barnard, quello della gabbia o no? Sì, sì, seguo. Ma avete il caso anche ogni tanto di farli tacere perché sparano solo stronzate. E che vuoi fare? È fissato con sta tecnocrazia europea, sulla chemiotassazione, su queste robe qua, capito? Io invece volevo tornare brevissimamente su una emerita stronzata che poco fa il conduttore Giuseppe Crociani ha fatto sul paese Oppido, mi sembra che sia. Sì, che ho fatto. Mi spieghi che cosa c'entra l'esercito, cosa c'entra le forze armate con una processione che si ferma davanti, lascia perdere l'opportunità, so benissimo che è inopportuno, ecco, lasciamo perdere queste stupidaggini, queste cose importanti, diciamo. Ma cosa c'entra l'esercito? E c'è un reato per caso? Cioè la Madonna che si ferma davanti a casa di uno? No, ma non sto reato. Dicendo per quello, capito? Però è un segnale che insomma in quel paese c'è qualcosa che non funziona. Allora no? Devi militarizzare palmo per palmo tutta la Calabria e metà Campania. Ma e forse mezza Sicilia. Ma guarda che non è un'idea così sbagliata, Non è un'idea così sbagliata. Impieghiamo i militari come servono, non per fare nulla. È stato fatto in passato, Perché non si può ripetere? Famosi vespri siciliani. Comunque non risolvi nulla, assolutamente non risolvi nulla. Può darsi, perché hai militarizzato l'Afghanistan, hai militarizzato l'Iraq, di militari ne hai spassi tanti per il mondo. Ma io intendo militarizzare in un altro modo, non è militarizzare tanto per militarizzare. Tu hai il modo vincente di militarizzare i territori per poi farli risultare vincenti. Non funziona. Ma io non ho, secondo me sono territori perduti. Ormai non c'è nessuna speranza, per cui se non tra 4-5 generazioni, capito? Forse tra qua, per cui al limite poi uno dice militarizzo, no? Chiamo l'esercito, blocco tutto, gli ingressi, tutto, cioè faccio una specie di tabula rasa, dice vabbè, allora forse si risolve qualcosa. Cioè controllo ogni macchina che esce, ogni cosa che esce per un anno. E forse che ne so, non so che dirti. Esatto. Perché stai facendo, cioè lì la contiguità. Allora, tu prendi il massimo esponente della lotta alla corruzione, all'andrangheta che c'è in Calabria, il giudice Gratteri. Certo, assolutamente, bravissimo. Allora? Perfetto. È il peggiore degli indranghetisti, cioè non so se è questo qui che adesso era lì a casa. Chi è il peggiore degli indranghetisti? Ma non lo so, cioè, metti il peggiore, quello di allora? Animale, il più bestiale. Allora, se tu metti i contatti che ci sono fra questi, arrivi tranquillamente a Gratteri, cioè la società calabrese, cioè è completamente senso? Concatenata. No, a Gratteri non credo che arrivi, non credo che arrivi a Gratteri. Questa è grossa. Ci saranno N passaggi, ma ci arrivi. Ci saranno 10.000 passaggi, ma ci arrivi. Forse Gratteri. Ma no, dai, su. Sì, Gratteri è chiuso nell'orto lì perché coltiva peperoni, perché poveraccio non può neanche uscire per strada perché sono, gli sparano, no? Quindi forse probabilmente. Che ci sia una contaminazione, non c'è dubbio. Che ci siano dei legami anche tra le istituzioni e cose, su questo non c'è dubbio. Gratteri, guardi, no. Lo sai che succede? Che il Corriere della Sera ha pubblicato un reportage dalla stazione di Firenze, caro Parenzo, dove ha fatto chiaramente vedere quello che succede. Turisti praticamente aggrediti, una questua continua da parte di molte persone, tra cui in gran parte nomadi, rom, il comune che cerca di porre rimedio ma non ci riesce, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè praticamente l'invasione rom, di questuanti rom, mendicanti rom, alla stazione di Firenze. Vabbè, questo ha fatto vedere in questo reportage. Sì. Noi abbiamo qui il presidente dell'associazione Nazione Rom, Marcello Zuinisi. Buonasera, signor Zuinisi. Buonasera, non sono presidente dell'Associazione Nazione Roma, semplicemente legale rappresentante. Legale rappresentante, ma lei è Roma? Io sono cittadino italiano e il mio cuore è Roma. Il suo cuore è Roma. Senta Giunisi, lei ha proposto una cosa francamente che mi pare una mezza follia, scusi se lo dico in maniera molto chiara. Cioè, bisognerebbe costituire una cooperativa di portabagagli, la spieghi lei questa cosa della cooperativa? Invece, sì. Secondo Parenzo è interessante, secondo me no, ma molto, molto. La spieghi lei, cioè, vediamo se l'ho capito per bene. Porre rimedio a questa situazione che si è venuta a creare, che cosa bisogna fare, Giunisi, in pochissime parole? In pochissime parole, volevo premettere che nessuna aggressione è stata e viene fatta dai cittadini rom che sono a Santa Maria Novella verso Tunisi. Ma chi l'ha detto? Qui ci sono racconti di gente che vengono circondate, persone circondate, sputi e cose di questo tipo. Non è vero che non ci sono aggressioni, Giunisi, c'è modo e modo di fare aggressioni. Certo, non ci sono aggressioni con i coltelli, magari. Non ci sono aggressioni, io sono a conoscenza di un'aggressione da parte di un cittadino rom che è stato aggredito da 3 ferrovieri. Sì. Siamo riusciti a far intervenire un'ambulanza che ha preso il cittadino rom direttamente da dentro la ma porta. Ma tre ferrovieri, scusi Giunisi, l'avranno fatto perché questo stava facendo qualcosa oppure però l'hanno aggredito la così? La proposta che è interessante, se no. Ma il fatto di fare una contestazione amministrativa che un cittadino in maniera abusiva fa un servizio di portabagagli non significa se mi permette pestare. Vabbè, secondo lei è stato pestato, però questo è un altro. Secondo lei non sono aggrediti, diciamo, i passeggeri, ma sono in alcuni casi sono i rom ad essere stati aggrediti. Se lei legge, visto che riportava l'articolo della sera, se lei legge l'articolo inizia una turista americana che ringrazia della gentilezza dei cittadini rom che sono presenti alla stazione di San Fernando. Però Giunisi, scusi, al di là di questo, adesso, lei propone che cosa? Cioè di regolarizzare queste persone, fare una cooperativa? Io cosa stiamo proponendo? Stiamo proponendo innanzitutto che a Firenze, in Toscana e in Italia si rispettino degli accordi quadro. No, però lasci perdere gli accordi quadro, non ce ne frega un cazzo degli accordi quadri. Giunisi, lei mi deve dire che cosa propone lei? La creazione di una cooperativa, che cosa? Sì, fatta noi di abbiamo proposto con un documento che è stato sottoposto al sottosegretario di Stato Franca Biondelli, Ministero del Lavoro, la costituzione di una cooperativa di portabagagli è composta da cittadini rom, cittadini italiani, chi si sta ritrovando alla stazione Santa Maria Novella a esercitare abusivamente. Esatto. Cioè lei dice gli abusivi che stanno lì in Roma, bravo. Facciamo una cooperativa giusto, così pagata dalle Ferrovie anche dello Stato, ma lei si rende conto della follia di questa cosa o no? Cioè no, Giunisi, non è, guardi, non lei è una follia. Dice questi qua vanno lì, invadono la stazione, rompono i coglioni a un sacco di gente invade. E lei propone che cosa? Di regolarizzare attraverso una cooperativa. Giustissimo, una cooperativa, giusto, bella idea. È giusto? Ma perché è giusto? Perché ha ragione, perché loro sono già lì e siccome che vuol dire che stanno lì? Che vuol dire che stanno lì? Vuol dire che se tu li metti in regola non c'è bisogno, non c'è bisogno, è un modo anche per controllarli, per fare un servizio da una parte sociale, per inserirli nel contesto e dall'altra per offrire un servizio. È una proposta molto intelligente invece, molto giusta, molto intelligente. Ecco il progressista Parenzo, il progressista di fronte a questa cooperativa è una questione sociale che li fa diventare lavoratori, li rende responsabili del lavoro che fa. Ma no, ma allora Giunisi, tra l'altro, che cosa devi dire? Permettete una parola, perché è già successo questo. C'è un sindaco a Salerno, che è un sindaco che tra l'altro ha particolarmente odio gli immigrati, ma questo sindaco a Salerno, di fronte a una situazione di parcheggiatori abusivi palermitani, cosa ha fatto? Ha costituito una cooperativa. Ma è diversa la cosa, è diversa. È il principio stesso. Perché non servono quelli là, non servono, non servono. I rom che vanno lì, non servono. Ma come no? Dice lei. Ma li legge i racconti o no? Li legge quello che dicono i controllori sui treni o no? Sui treni, li legge quello che succede? Io leggo che sui treni innanzitutto, guardi, che veniamo da 3 mesi... Vabbè, però mi spieghi una cosa, perché stiamo per concludere, scusa Giunisi, una cosa molto semplice, ma secondo lei questi qua non commettono nessun reato e dunque vanno... Non siamo di fronte a dei reati di evidenza penale, come sottolineato dallo stesso... E la colpa è dell'informazione, dice lei, la colpa è dell'informazione. No, c'è un'informazione che fra l'altro veniamo da un esposto verso il responsabile del giornale Alessandro Sallusti, verso alcuni giornalisti che hanno scritto la colpa dell'informazione, istigazione all'odio, hanno scritto delle cose non vere, hanno diffamato istigazione all'odio, addirittura istigazione all'odio. Vabbè Zunisi, riprendiamo questo discorso un'altra volta, Claudio da Roma, Fabio da Napoli, Daniele da Rovigo, Lorenzo da Modena. Tutti domani, riprendiamo. Volevano parlare di cose di coppia. Fabio, di che voleva parlare lei, Fabio? Fabio? Volevo parlare. Pronto? Sì, di che volevi parlare? Sì. Ciao, Cruciani. Niente, volevo parlare di sex toy. Ehi, sex toy. Domani, domani ti chiamo, non ti preoccupare. Sono orgogliosa dei miei familiari. D'accordo? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Radio 24. La passione si sente.